Chi è Berlusconi? È un messia mandato da chi? Da Dio, che sta salvando l'Italia. E dobbiamo ringraziare che in questo millennio c'è Berlusconi, se no altrimenti eravamo fregati tutti. Sì, perché forse dobbiamo aspettare ancora un altro millennio, mille anni, che arrivi un'altra persona come Berlusconi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Era la più grassa puttana che mai avessi visto. La donna più grassa che avessi guardato. Aveva un vestito di seta cangiante. Sia chiaro, non è il primo, non è il primo ad aver utilizzato, caro Parenzo, la parola troie, la parola parlo di troie. Battiato. Parlo di Battiato. Ora, le cose sono due: o ha perso il grande maestro, grandissimo maestro, o ha perso la brocca, oppure dice le cose che molti pensano, anche quelli che lo accusano oggi, che molti pensano e non hanno il coraggio di dire. Farlo con te. Poi è penoso che lo stesso Battiato abbia detto: no, parlavo della passata legislatura, non di quella attuale. Ma che vuol dire? Cioè, non è che è meno grave, no? Si sente male. Si sente male. Sì, ha detto: parlavo della passata legislatura. Ma non ho capito. Sì. Se ti indigni perché Grillo. Ma io non mi sto indignando. Il politico Grillo, un giorno sì, l'altro pure, usa un linguaggio da taverna, da porto. Un grande intellettuale quale Battiato non può esprimere un parere su un libero Parlamento eletto, anzi nominato? No, non mi sto indignando, ma chi si sta indignando? Sto andando nel merito. Queste troie che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa, è una cosa inaccettabile, farebbero meglio che aprissero un casino. Questo dice, cioè, se ti sembra normale, non lo so, se ti piace così, va bene, ti piace così, ti piace che Battiato dia delle troie così a delle persone che stanno in Parlamento senza nemmeno definirle. Ma sentiamo Battiato. Uno si rallegra quando un essere non è così servo dei padroni e farebbero qualunque cosa. Queste troie qui che si trovano in giro nel Parlamento, ma è inaccettabile, inaccettabile. Dovrebbero aprire un casino e farlo pubblico. Che mai avessi visto. La canzone ovviamente è di Battiato, in linea. Queste troie che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa. Ora, la parola puttane fu usata qui da noi dall'onorevole Crosetto lo scorso 4 di marzo. L'allora onorevole Crosetto. Come? Anche Guzzanti, anche Paolo Guzzanti. Vabbè, quello Paolo Guzzanti che c'è tra me. Guzzanti è un classico, mignottocrazie. Sì, cerca di essere più originale. Crosetto. No, perché se crocifiggere da due giorni per una cagata che non ha neanche fatto, gli girano i coglioni. In un mondo dove ci sono quelli che fanno politica, che rubano, si mangiano ostriche e champagne, si portano le puttane in Parlamento, cioè adesso mi rompete i coglioni a me per una cosa che non ho detto o fatto nel sito della Camera. E vabbè, chiederò scusa anche per quello. A parte che secondo me i giorni di Battiato come assessore al nulla, perché in realtà è a fare i concerti a Londra, a Parigi, non so dove, assessore al nulla in Sicilia, sono contati dopo quest'uscita, a mio modesto parere. Però sentiamo anche Vittorio Feltri sulle mignotte, no? Perché lo disse lui. Ho visto dei nomi che immediatamente richiamano alla mignottocrazia, non è che mi fai fare l'elenco delle mignotte, però insomma ragazzi, non siamo mica nati ieri, quindi no? Lo sappiamo, poi io ho usato il termine mignotte in senso neutro, ci sono anche molti uomini mignotte, no? No, io mi riferisco al mignottume. Ma non è l'unica di Battiato, cari ascoltatori della Zanzara, che siete qui attaccati alla radio per questa nuova imperdibile puntata. Battiato sostiene a Parigi, dove non fa l'assessore, il signor Battiato, ma va a strimpellare, va a cantare, per carità, bravissimo, con il consenso, con il gentile consenso del suo governatore Crocetta. Dice: aspetta, sì, sì, ho capito. È certo che la destra italiana è una cosa che non appartiene agli esseri umani. Ma dai, su. Ma ha perso la Trebisonda. Oppure... Ma non può esprimere un parere. Aspetta, ma sì, mamma mia, ma poi ti devo dire una cosa in più, però. Fallo sentire. Non c'è nulla da però. Sentire qui perché non c'è l'audio. Era preso fuori dall'Opera di Parigi. Mi dispiace. Però senti, una cosa... No, però ha detto anche un'altra cosa. In un'intervista al Fatto Quotidiano di oggi, sempre il signor Battiato dice: a Milano hanno votato Ambrosoli. In provincia sono tutti ignoranti, hanno votato per Maroni. Ma dai, su. Su, dai. Farfugliai qualcosa tanto per dire sì. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, cari ascoltatori. Che c'è, Parenzo? Che vuoi dire? Che no, c'è? No, c'è da che dire, c'è questo, che perché c'è la riflessione profonda da fare rispetto alle troie sì, nominate. Ma non c'è, siamo alle 18:37, non mi puoi fare la riflessione profonda. C'è battaglia da fare. Quello che ti dovresti chiedere è se più persone, vale a dire Guzzanti, il signor Feltri, il signor Battiato, vabbè, qualcosa di vero ci sarà. Avanti, no, se quattro persone hanno usato questo termine, evidentemente bisognerebbe, come dire, approfondire se quattro persone di orientamenti diversi. Allora, dai, forza, veloce. Dunque, bisogna capire, anziché indignarsi, c'è Battiato. Senti invece la difesa che fa di Dell'Utri il signor Quagliariello. Ora si può difendere, Dell'Utri in mille modi, il processo, i magistrati che si accaniscono, eccetera. Però senti come lo fa Quagliariello. Posso dire che Marcello Dell'Utri ha dato tanto alla cultura politica di questo paese. Appassionato bibliofilo, è stato presidente della Commissione Biblioteca del Senato per tanti anni, stimato dai colleghi di tutti i gruppi. A parte che sembra un mezzo coccodrillo, insomma. Però al di là di questo, leggeva evidentemente un testo, era di quelle dichiarazioni che si leggono così, per carità, non vogliamo male a Dell'Utri, però non è che se uno è bibliofilo, cioè non è che se uno ha dato tanto alla cultura italiana, contemporaneamente non può essere un bandito. Non cambia la sostanza delle cose rispetto alla procura, rispetto alla verità processuale. Poi, per carità, io ho le mie riserve su tutto, però non è che uno dice è bibliofilo e allora sei automaticamente assolto, altrimenti sarebbe facile. Io mi iscrivo all'Arci e così frequento l'Arci, faccio delle grandi letture, poi rubo, e però sai, sono iscritto all'Arci, ho dato tanto alla cultura italiana. Sei tornato lucido, molto bene. Allora, noi vogliamo molto bene al dottor Grasso, vero Parenzo? Beh, perché la seconda carica dello Stato ci ha regalato grandi interviste del passato e gli siamo grati per questo. No, ma non è questione di regalare grandi interviste. Allora, innanzitutto vediamo che cosa ha detto ieri, ripetendo ancora una volta la vicenda del premio a Berlusconi. Sentiamo ieri. Allora, la darebbe questa medaglia a Berlusconi per i beni sequestrati? Allora, io ho sempre avuto l'onestà intellettuale di riconoscere le cose che gli altri hanno fatto di positivo. Il fatto del premio non ho mai detto io, il premio è quasi sentito. Sono stati quei birbanti di Cruciani e Parenzo che hanno cambiato questa cosa. Non la darebbe più la medaglia proprio no. Ma guardi, io ho detto tutte quelle cose che si dovevano fare e che non sono state fatte. Noi non abbiamo messo in bocca a nessuno la parola premio. A parte che se uno fa la domanda, lei darebbe un premio a Berlusconi per l'antimafia, e uno risponde sì, la traduzione automatica è darei in tutto il mondo è darei un premio a Berlusconi per l'antimafia. Ma a parte questo, cosa che è avvenuta, c'è anche la pronuncia della parola premio da parte di Grasso. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Su, ma io non voglio attaccare Grasso, perché ha avuto l'onestà intellettuale di riconoscere una cosa. Cioè, non si è spaventato di fronte poi alla canea che c'è stata successivamente di dire una cosa. Cioè, non si è spaventato nel dire sì, per quello che riguarda la questione dei beni sequestrati, io darei un premio a Berlusconi. Qual è perché il problema? Perché ha fatto bene. Bravo, ha girato intellettualmente onesto. Risentiamo. Però noi non siamo birbanti. Siamo anche birbanti, però che vuol dire? Cioè, non è che abbiamo manipolato qualcosa, risentiamo. Ma il governo Berlusconi, lei gliel'avrebbe dato un premio speciale nella lotta antimafia? Beh, devo dire che onestamente abbiamo avuto una legislazione che ci ha aiutato nel sequestro e nella confisca dei beni. Ha fatto salire moltissimo i beni sequestrati, sono arrivati in 3 anni e mezzo a qualcosa come 40 miliardi quindi di euro. Quindi premio speciale ad Alfano Berlusconi per la lotta alla mafia? Premio speciale, certo. Può sembrare una battuta, ma non è così. No, è così. Grazie, 2 punti, premio speciale ad Alfano e Berlusconi per la lotta alla mafia. Su questo lato. Sì. ecco com'è che va il mondo. Ma di cosa stiamo parlando, Parenzo? Su, dai, ti ho fatto ricordare un momento epico, l'11 maggio dell'anno scorso, è passato, guarda, quasi un anno, ma non vogliamo infierire, non si può infierire. Ma io non mi voglio incazzare, perché ho rispetto per la ma seconda. Ma no, ma non c'è niente da incazzarsi, però non c'è stata nessuna manipolazione, nessuna appunto, manipolazione. Mi arrabbio se mi dice, io birbante sono molto felice, ma lo ha detto lui, in quest'ambito sì, premio, l'ha pronunciata lui quella parolina. C'è in quest'ambito? Meno male che c'è l'audio, rimandalo. Manda solo quello e andiamo a casa stasera, manda per tutta la trasmissione solo quello e andiamo. Grazie per averci seguito, buonasera, c'è Grasso stasera e basta. E sì, chiudi la Claire, manda solo quello, manda a casa Riccardo, salutiamo Squinzi, manda no, solo abbiamo quello. Abbiamo con noi il deputato del Partito Democratico, neodeputato Alfredo Bazzoli, uno dal cognome Bazzoli. Molto pesante, buonasera. Eccomi qua, buonasera. Come... a tutti. Come no, è parente, è nipote, come no? Nipote. Parente? Nipote. Sì, nipote. Ah, ecco, per chi avrei bisogno, se devo fare un nuovo mutuo, ristrutturazione. Ma lui non c'entra, fa l'avvocato, ti devi rivolgere a... Ma sei nipote, potrai chiedere un mutuo. Non chiedere un mutuo di che? Che mutuo? Che l'hai già fatto il mutuo? Che ti devi... Devo fare un altro mutuo, signor Bazzoli, è possibile? Ma non lo so, sì. Non posso intercedere. No, non puoi intercedere, non puoi. Scusi, se lei deve fare un mutuo, chiede a suo zio? No, io mi rivolgo alla mia banca, che non è Banca Intesa. Beh, quindi, questo è clamoroso, lei non ha un conto a Banca Intesa, signor Bazzoli. No, vuol dire che non si fida. Si fida molto di Banca Intesa, scusi, com'è la storia? No, c'ho un conto da un'altra banca, il Banco di Brescia, che è la banca della mia città. E questo è molto grave, suo zio non dice nulla di questo. Lei è molto ricco, tra l'altro. Lei è? No, lei è molto ricco, sto scherzando, ovviamente. Nel senso, dunque, ha un sacco di soldi depositati in questa banca, la banca di Brescia. No? Ovviamente scherzo. No, però come mai non ha scelto la banca di suo zio? Ecco, sono curioso di questa cosa qua. No, ma io c'avevo un vecchio conto lì al Banco di Brescia ed è rimasto lì. Ed è rimasto quello. Esatto. E suo zio non ha mai tentato di dire, ma vieni da noi, vieni da noi, scusa. Non penso che cambi granché, insomma, il fatto che io vada alla Banca Intesa. Cioè, lei dice, non si... Dal punto di vista, diciamo, del bilancio economico della banca, esatto. Non credo che cambi granché. Non credo, poi magari mi sbaglio, però non credo. Senta, però molti fanno 2+2, no? In questa legislatura abbiamo due... Lei che... perché non è che lei è suo zio, però c'è anche un altro parente, no? Sì. Che è con Monti. Sì, è vero. Ecco, lei, come dire, è tutto casuale? Assolutamente sì, io mi sono candidato alle primarie. Sì, quello è vero, quello è vero. Sono attualmente consigliere comunale PD a Brescia. E che fai? Restiamo consiglieri comunali o ci dimettiamo? E adesso mi dovrò dimettere, anche se andiamo a elezioni adesso tra un mese a Brescia, quindi non è che cambi moltissimo. Ah, vabbè. Sì. Però sì, sicuramente mi dimetto, perché ovviamente non sono non in grado si può di... fare, non si può no, fare le due cose insieme. Non si può fare entrambe le cose. Vogliamo dire che... Poi non so sì. Se finirà prima la consiglia tua a Brescia o la legislatura qui. Ecco, beh, questo... Potrei anche valutare, insomma. Potrei anche decidere magari di mettermi qua, visto che magari dura di più quella. Possibile, adesso, per carità. È una battuta, però non troppo. Scusi, signor Bazzoli, ma lei è renziano, mi sembra. Cioè, renziano, nel senso... Io ho sostenuto Renzi. Sì. Termine orrendo, renziano, bersaniano, come se la cosa orrendo, includesse infatti, una persona orrendo. Intera, no? Cioè uno è renziano, esatto. Dunque tutto quello che sostiene Renzi è, però le voglio chiedere subito una cosa. Secondo lei non c'è un po' di accanimento terapeutico in questo tentativo di Bersani? Cioè, questo tentativo di Bersani, i numeri pare che non ci siano, poi non è che uno può chiedere i numeri alla Lega, alle autonomie, a chiunque. Cioè, mi sembra che i numeri non ci siano. Ma che cos'è? Accanimento terapeutico? È per tenere insieme il PD? Almeno... No, io credo che lui stia facendo un tentativo sincero per cercare di capire a quali condizioni si può cercare di raccogliere i voti al Senato dove non ci sono. E poi adesso vediamo cosa ci dirà e cosa racconterà Napolitano. Ma non c'è un po' di accanimento? Noi assistiamo ovviamente sperando che lui riesca in questo tentativo. Lei lo deve dire. È inevitabile, insomma, no, ma lo dico anche sinceramente, cioè noi saremmo ben contenti che riuscissimo. Ma perché non fate un accordo col PDL? Allora, un accordo politico col PDL, onestamente... No, politico, un accordo... Visto il passato, insomma, di questi ultimi 5-10 anni, mi pare veramente molto complicato. Non si può fare. Quello onestamente mi sembra veramente difficile. Altra cosa è ragionare magari di governi istituzionali, governi tecnici, ma questo è una... è una vicenda. Cioè, se Bersani fallisce, se Bersani fallisce, secondo lei non si deve andare subito alle elezioni? Me lo dica velocemente. Ah, io credo che andare alle elezioni adesso, subito, con questa legge elettorale, in queste condizioni, sarebbe una follia. Io l'ho detto pubblicamente, sì. Quindi non ho dunque, governo istituzionale con tutti dentro, giusto? Cioè, con chi ci governo, sta? Governo, non so, la palla è napolitano, quindi... Vabbè, d'accordo, quello è chiaro. La cosa. Però, insomma, credo che un governo di scopo, come si dice, quindi che faccia 3-4 sì. cose importanti, necessarie, utili, urgenti per questo paese... Anche col PDL. Credo che sarebbe una cosa ragionevole, che va in Parlamento e cerca di ottenere la fiducia da chi ci sta, insomma. Ecco. Allora, oggi si è assistito anche, Parenzo, ad una cosa incredibile, le dimissioni del ministro Terzi alla Camera in dissenso col governo sulla questione dei Marò. No, cioè, è una roba, no, una tragicommedia, una sorta di tragicommedia. Questa è una cosa, neanche Totò e Peppino voglio dire, fanno una cosa sulla pelle dei Marò. Ah! Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Ho l'amico Emilio Pappagallo di Radio Rock, lancia Troie in Parlamento, nuovo successo di Battiato, caro Parenzo, nuovo grande successo di Battiato. Ma dai, su. Ma perché uno non fa il mestiere che sa fare meglio nella vita? No, ma non hai detto la stessa cosa di Feltri, di Guzzanti, di Crosetto? Ma, quindi, ma cioè, Feltri mica fa l'assessore di Crocetta, amico mio. Tu ha detto che infatti sono, diciamo, uno Feltri è fa il giornalista e ha detto benissimo. Che Berlusconi tra l'altro ha candidato delle mignotte. La benissimo. Stessa cosa ha detto Crosetto, ma io non è che... Quindi anche lui avrebbe l'onere della prova, no? Sì, ho capito. Giusto? Certo, infatti gli hanno chiesto faccia i nomi, eccetera, però eccetera. Invece quindi con Battiato Crosetto, fa il politico ormai, fa l'assessore di Crocetta. E che differenza c'è appunto tra lui, non fa, Crosetto, non c'è nessuna differenza. Vabbè, ma perché se tu vuoi appoggiare a tutti i costi Battiato, ma va benissimo, tu lo puoi anche fare. No, io credo, io chiedo se quattro persone di orientamenti diversi, con storie diverse alcuni, sì. dicono la stessa cosa... Beh, merita attenzione anziché lo sberleffo solo perché uno è un grandissimo cantautore intellettuale. Tu invece te la prendi col cantautore snob di sinistra perché risponde a quei cliché che a te fanno tanto schifo. Ma no, mentre ma... gli altri ridi. Guarda, se metto insieme Bazzoli, che è una brava persona che mi fa avere il muto. Fai parlare Bazzoli, che è molto meglio il signor Bazzoli. Se metto insieme le scempiaggini che devo sentire. Bazzoli è una brava persona. Aspetta. Muto al 2%, si può avere il muto al 2? Muto al 2 col nonno, col zio, come si chiama? Zio. Chi è? Se metto insieme Battiato, no, che dà delle troie parlamentari, aspetta, Battiato che dà delle troie a non so a chi in Parlamento, che dovrebbero aprire un casino, che è meglio. Se metto insieme il fatto che dice che la destra è disumana, se metto insieme il fatto che dice che quelli che hanno votato Maroni in provincia sono ignoranti, gli unici eletti sono quelli che hanno votato Ambrosoli a Milano città, il risultato è che è un cretino, diciamola tutta, è un cretino, lo dica anche lei Bazzoli, Battiato è un cretino. Battiato, diciamo che oggi era meglio se stava zitto, mettiamola così. Anche lei è una persona fine, non è come noi. No, infatti, non riesco ancora a mettermi in sintonia col vostro programma. No, vabbè, quello che c'entra. Però, non si preoccupi. Però guardi che anche persone molto moderate oggi hanno detto che è un cretino. Non è che dire che è un cretino è un'offesa. Dice, è abbastanza cretino. Ha fatto un'uscita abbastanza cretina. Senti, Bazzoli, ma secondo lei... lei messo di fronte alla scelta potrebbe Berlusconi o Grillo? Messo di fronte alla scelta è una bella scelta, complicata, lo so. Direi forse Grillo, ecco, gli darei almeno il beneficio del dubbio, ecco. Forse Grillo, secondo me lei... visto l'esperienza di Berlusconi, onestamente tra i due, ecco, se devo secondo me lei sta mentendo sapendo di mentire, però va bene, gliela concedo questa cosa qui, secondo me sì, perché non mi dica che voi non avete più cose in comune con Berlusconi che con Grillo, diciamola tutta, anche a livello di programma, di tutto. Voi del PD avete più cose in comune col PDL che con Grillo, questo si può dire? Su alcuni provvedimenti economici probabilmente sì, il problema però è Berlusconi, chi è? Santa cena, il problema è Berlusconi, sì. Cioè se si togliesse dalle palle, lei dice, sarebbe... Insomma, diciamo che lui è un bel ostacolo, perché l'abbiamo conosciuto, è una persona che riteniamo totalmente inaffidabile. Perché, cioè, insomma, se ne andasse a casa... Se ci fosse una destra diversa, probabilmente la cosa che tutti auspicano in questo momento, cioè la grande coalizione, che è la cosa probabilmente che serve al paese in questo momento, sarebbe una cosa fattibile. Lo so, però sai, quello che piglia i voti a destra, quello che piglia i voti a destra è lui, non è un altro, ha capito? Cioè, no, ma è vero, infatti, ma io non è che demonizzo chi vota Berlusconi, né voglio demonizzare Berlusconi. Ma lei voterebbe per l'incarceramento di Berlusconi se ci fosse la possibilità, alla Camera non c'è. Io onestamente farei molta fatica, ecco, devo dire la verità, perché l'idea di mettere in galera, per quanto magari accusato di reati anche pesanti, eccetera, ma il capo dell'opposizione o comunque il capo di una coalizione importante di una politica in Italia, ecco, credo che avrei molte perplessità. Ecco, cioè, probabilmente non la voterebbe perché sarebbe un problema politico enorme da gestire. Esatto, esattamente. Vabbè, questo fare molta fatica, sì, devo essere sincero. Cioè, non la voterebbe, insomma, al di là di cose. No, vabbè, adesso se fosse una roba eclatante, per cui. Vabbè, sì, dire, però farebbe molta fatica perché. No, farebbe molta fatica perché ci sono ragioni politiche che, secondo me, suggeriscono molta prudenza e molta cautela in una vicenda di questo genere qui. Insomma, e di ineleggibilità invece. Quando per rimetto la libertà personale di un capo importante in una coalizione, credo che sia. Insomma, ragioni politiche possono anche consigliare magari una prudenza ulteriore, maggiore, ecco. Invece di ineleggibilità. Meno male che non siete, come dire, assoggettati ai diktat del Micromega, del signor Darkais, sono un po' girotondini. Io da questo punto di vista credo di essere abbastanza autonomo e indipendente anche sui temi della giustizia. Sì. Per esempio, l'ineleggibilità di Berlusconi, secondo lei è una follia, una cosa antica, vecchia? Stupidaggine. Secondo me, come ha detto Nida, è una cosa che probabilmente non sta neanche tanto in piedi giuridicamente. E poi dopo 20 anni, insomma. Poi devo dire la verità, no, io poi dico, secondo me l'idea di mettere fuori gioco Berlusconi con un provvedimento di legge, con una norma, eccetera, per me è una follia politica. Senta, lei Berlusconi, che... Berlusconi, come dice Renzi, e su questo ha perfettamente ragione, va battuto politicamente. A proposito di Renzi, si parla, ovviamente, sono tutte così voci, eccetera, di un suo possibile coinvolgimento. Lei dovesse dare un consiglio a Renzi, è quello di stare fermo, di non fare nulla? In questo momento lui ha scelto un profilo basso e quindi credo che giustamente, insomma, si è allineato alle decisioni del PD, non ha minimamente messo in discussione le decisioni e attende gli eventi, dopodiché è chiaro che le sue decisioni le prenderà una volta che si è capito come va a finire. Guardi che la domanda prima su coso, su Grillo eccetera, tempo fa Enrico Letta disse meglio votare PDL che Grillo, cioè lo disse molto chiaramente, non è che io l'ho fatta così a caso la cosa. No, però lei mi ha detto non PDL, lei mi ha detto Berlusconi o Grillo. No, PDL. No, è una cosa diversa, no? Lei mi ha detto, lei voterebbe Berlusconi o Grillo? No, io PDL, dico, PDL. Tre due. PDL o Grillo, già la domanda, PDL o Grillini o insomma, esatto, momento, sì, 5 Stelle, sì, già la domanda è un po' diversa e qui sarei più in difficoltà obiettivamente perché riconosco alla destra di questo paese una legittimità politica, mentre il Movimento 5 Stelle in questo momento ha, diciamo, una carica antisistema di cui ancora non si è spogliato e quindi... Dunque voterebbe PDL, diciamo. Voterebbe PDL? No, voterebbe adesso. Diciamo, no, sceglierebbe. Insomma, con chi allearmi in un'ipotesi normale, probabilmente sarebbe il PDL perché obiettivamente è una destra, insomma, è una destra democratica. E quella... Il Movimento di Grillo in questo momento mi sembra invece più antisistema. Un po' eversivi, diciamo, un po' eversivi. No, avversivi, sono qui in Parlamento, noi li vediamo, non prendono nessuna iniziativa, non sono indisponibili a qualunque responsabilità di tipo. Sembra che abbiano solo, diciamo, di mira il tanto peggio, tanto meglio. E allora, c'è il rischio che fate il governo, secondo Bersani, potreste fare il governo con quelli della Notab, Perino e quelli eletti in Parlamento, però io lo dico diciamo subito. Diciamo che sarebbe complicato, ecco, sarebbe complicato da gestire politicamente. Ecco. E non mi pare che sia nell'ordine delle cose in questo momento, però... Senta, mi dica una parolina, per restare a cose di famiglia, mi dica una parolina sul signor Della Valle, che pensa che suo zio se ne debba andare a casa perché ha 80 anni ed è troppo vecchio, l'ha detto qualche giorno fa. C'è una parolina una parolina gentile, so che lei non vuole parlare per interposta persona e non c'entra niente, però siccome porta lo stesso cognome, vorrei una parolina gentile sul signor Della Valle. Lo trovo un tantino maleducato, ecco, mettiamola così. È un tantino su un tantino, adesso non mi faccio. Devo essere prudente, cauto. Maleducato. Sono un neo deputato, voi mi volete fare sbilanciare. Ecco, ma perché è malato? Perché è fissato questa cosa qua? Perché signor Della Valle... batte il chiodo su questa roba qua, sul fatto credo che ci siano dissidi di sapori che riguardano alcune partite, insomma, giochi di potere, è interessato qualcosa del genere, giochi, ecco, di potere. Io ne sono fuori, quindi onestamente non è meno male entrare, dice lei, è meno male. esatto, grazie. Faccio altro nella vita, che c'è Parenzo, che c'è, che dobbiamo no chiudere, volevo che sapere c'è? Qual è il piatto preferito dal banchiere Bazzoli, ma chi gliene frega lui, ma che ne sa, signor Alfredo Bazzoli? Fondamentale, onestamente non lo so, guarda. Grazie, a presto. Il fatto del premio è un, non ho mai detto io il premio, è quasi sentito. È stato, sono stati quei birbanti di sì, Cruciani, Cruciani e Parenzo. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del letto che mi graffia tutto. Naturalmente la donna è più portata a prendersi cura dei bambini, della casa. La donna è sempre donna, a un certo punto è la maternità, c'è tante robe, capito? Non penso che sia favorita la donna dentro il Parlamento. Beh, è più portata a occuparsi dei figli della casa. Figli della casa. È meglio che si occupi dei figli della casa. Eh sì, la donna deve curare dei figli, non possiamo mettere tutti i figli negli istituti, non possiamo mettere esatto. Figli nell'asilo nido, e la donna gli dà andare a bioeducazione. Diciamo insieme alle donne, state a casa e farete una società più felice. Esatto, più felice per i figli, per i bambini, quindi più educazione. Facciamo il lavoro agli uomini. Per me è così. Cosa hanno in più gli uomini che possono dare sul lavoro? E l'uomo ha il tempo più libero, deve stare più nel lavoro. Invece la donna ha la casa, pulire la casa, lavare, stirare i bambini, insomma, è più occupata, quindi è meno occupata sul lavoro. Le Iene si sono specializzate nel pizzicare il povero Isidori, che non è nemmeno più deputato, eh. Clemenza, abbiate clemenza, titoli del TG3, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Terzi si dimette, contrario al ritorno dei Marò in India. Di Paolo, io invece non abbandono la nave. Sconcerto di Napolitano, anche Monti contro Terzi, domani riferirà alle Camere. Alfano e Maroni da Bersani, le nostre posizioni restano distanti o il PD decide di collaborare con noi o meglio andare al voto. Giornata di consultazioni dedicate ai gruppi politici, dopo il centrodestra l'incontro con Scelta Civica, domani il Movimento 5 Stelle. E giovedì il punto del segretario del PD con Napolitano, gli scenari possibili, un incarico pieno o un governo del Presidente. Per i 5 Stelle il pagamento dei debiti dello Stato alle imprese è un regalo alle banche, il governo così potrà ripartire l'economia. Il fondo monetario all'Italia per la crescita necessaria, le riforme e i conti a posto, vola la pressione fiscale. Processo da rifare per l'omicidio di Meredith, annullata dalla Cassazione la sentenza di assoluzione per Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Pronto? Cercavo il dottor Battiato, buonasera. Sì, buonasera, con chi parlo? Ah, salve, sono Giuseppe Cruciani da Radio 24, salve, la disturbo? Sì, salve. Salve, volevamo parlare con il dottor... No, ci mancherebbe, siamo a Bruxelles. A Bruxelles, sì, lo so. Che prove per il concerto. Questo concerto meraviglioso, come si chiama? Perché stasera avevamo un concerto. Apriti Sesamo Live, no? Apriti, o sbaglio? No, giusto, mi dica. Ah no, volevo cercare. No, volevamo parlare con il dottor Battiato per questa storia che è successa oggi. Un piccolo commento al volo, così, senza rubare troppo tempo. Non so se riusciamo. Tre minuti, purtroppo. Guardi, veramente senza rubare troppo tempo. Tre minuti e basta. So che no, stai. Lo so, perché abbiamo immagini la giornata come è stata. Lo so, infatti. Facendo soundcheck, tutte le interviste che dovevamo fare. Due minuti, guardi. Poi c'è il concerto. Lo so. Gli dica che c'è Parenzo. Gli dica che c'è Parenzo al maestro, che ci conosciamo. Parenzo. Sì, sì, adesso non riesco a dirglielo, ripeto, perché sta facendo quest'altra serie di interviste. Se mi può dare un numero, vi richiamo. Sì, perché l'altra volta mi aveva detto che... Sì, sì, d'accordo, adesso glielo diamo subito. Adesso glielo diamo subito. Lasciamo... Allora, il mitico Emilio Pappagallo di Radio Rock, che ovviamente merita grandissime fortune radiofoniche, Parenzo, si è inventato questa canzone qualche istante fa. In Parlamento vi sono troie disposte a tutto. Ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto. Dovrebbero aprire un casino. Che farebbero di tutto. Dovrebbero aprire un casino. In Parlamento vi sono troie disposte a tutto. Ci sono troie in giro in Parlamento. In Parlamento vi sono troie disposte a tutto. Ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto. Dovrebbero aprire un casino. To che farebbero di tutto. Dovrebbero aprire un casino. In Parlamento vi sono troie disposte a tutto. Ma dai, su ragazzi, siamo allo sbrocco con questo Battiato. Pappagallo è geniale su questa cosa qui. Si è inventato in un secondo, Parenzo, questa canzone sulle frasi di Battiato di oggi al Parlamento europeo. Però, insomma, diciamo la verità, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, diciamo uno che dice, sei un ipocrita. No, no, ma al di là di questo, no, ma al di là della frase sulle troie, uno dovrebbe rivendicare dicendo sì, secondo me nel passato Parlamento, nell'attuale Parlamento, ci sono un sacco di donne che sono entrate perché l'hanno data, perché diciamo la verità, quello che vuole dire Battiato è una cosa sola. Ci sono un sacco di donne che l'hanno data a Berlusconi per diventare parlamentari. Questo vuole dire Battiato, non è che vuole dire altre cose. Sì, ma non vuole dire mi questo. Allora, primo la dicesse esplicitamente. Prima cosa, numero uno, la dicesse detto, chiaramente. Detto. Beh, insomma, ha detto donne in generale, dicesse ci sono un sacco di parlamentari del PDL, donne che l'hanno data, sono andate a letto con Berlusconi per entrare in Parlamento. Se vuole dire questo, lo dicesse chiaro e tondo. Mi pare che sia stato molto chiaro. E su questo possiamo anche, al limite, possiamo anche essere d'accordo. Però, amico mio, qui intervista al Fatto Quotidiano di oggi, alle ultime elezioni ha vinto Maroni, a Milano ha vinto Ambrosoli e la provincia a essere ancora ignorante. Dai, su, dai, è un'opinione. E l'altra la vuoi dire? Ma certo che è un'opinione, ma che banalità stai dicendo? Certo che è un'opinione. È un'opinione legittima, più che mai legittima. Non capisco perché ti indigni solo perché è una persona, perché è un, ma che c'entra? Non ho capito che c'entra legittima, non ho capito, ma ragazzi, ma che vuol dire legittima? Dovrebbe chiedere scusa a coloro che hanno votato per Maroni, che lui definisce ignoranti. Prima cosa. Seconda cosa, dovrebbe chiedere scusa a tutti quelli che hanno votato la destra italiana, tra cui non ci sono io, per inciso. È certo che la destra italiana è una cosa che non appartiene agli esseri umani. Terzo, dovrebbe chiedere scusa alle donne che sono in Parlamento, o specifica: ci sono queste mignotte che sono entrate in Parlamento perché prostitute e sono 1, 2, 3, 4, 5 perché l'hanno data a Berlusconi, oppure... È facile prendersela con Battiato, ti ripeto. Ma che vuol dire facile prendersela con Battiato? È facile prendersela con Battiato quando, voglio dire, parlamentari hanno detto la stessa cosa. Non c'è stato da parte tua questo accanimento nei confronti degli altri... Cioè, mi sembra che sia, come dire, pelosa questa roba che stai facendo. Solo vabbè, chiamiamo il presidente della Regione Sicilia, vediamo un po' se si. Ti sta sui coglioni, ci sono... perché lui suona a Parigi, hai capito? Ma figurati se mi sta sui coglioni, ma va. Suona a Parigi, mi sta all'Opera. Mauro da Torino, buonasera. Buonasera, dica. Ascolti, io volevo fare un commento rapidissimo su quanto sentito una mezz'oretta fa appunto da lei, la signor Cruciani. Secondo me si fa, io capisco l'irriverenza della trasmissione e tutto quanto, però con arroganza si attacca una persona dicendo che invece di lavorare in Sicilia si trova a Bruxelles, ma dove è scritto una persona deve essere 7 giorni su 7 in Sicilia per fare l'assessore? Poi parliamo di un assessorato alla cultura che ha un buco di bilancio enorme. E che si è dovuto, e quindi signor, guardi, io gliel'ho detto anche in faccia, no? Ma per carità, che si sia trovato in difficoltà non c'è dubbio, io l'ho detto anche in faccia una volta a Battiato, quando è venuto qua ho detto: signor Battiato, secondo me lei è una follia il fatto che lei continua a fare concerti e poi faccia anche l'assessore, glielo dico esplicitamente. Se ai siciliani va bene così è perfetto. Lui ha sempre detto: io avrei promosso. Un attimo, la cultura fammi siciliana. Sentire chi c'è qua. Fammi sentire chi c'è in questo caravanserraglio. Fammi sentire chi però c'è. Però capisco che è facile prendersela con Battiato. Ma io me la prendo per quello che ha detto, non in quanto Battiato, ma la prendo perché ha dato delle troie. Ha detto: il Parlamento è pieno di troie che dovrebbero aprire un casino. Ma ragazzi, non hai fatto la stessa cosa con Guzzanti, con Felpi, con tutti gli altri che l'hanno detto. Ma che c'è? Segnalo solo questo. Ma non è vero. Comunque, a Monti è andato l'interim del ministero degli esteri. A te fa schifo perché lui invece è uno che gira, che suona nei grandi teatri. Vabbè, Mauro, allora che vuole? Ma che me ne frega a me se gira nei teatri? Può girare quanto vuole, Mauro. Allora? Voglio che non è giusto che con arroganza si attacca una persona che ha un assessore alla cultura, una persona di cultura che fa l'assessore alla cultura. Cioè, la persona giusta al posto giusto, quando nella politica italiana sappiamo lo schifo che c'è. Quindi, secondo me, bisognerebbe attaccare altri personaggi che non attaccare il mercato. Capisco che quello che ha detto, magari, Troia e così via, ma è un qualcosa di banale accusarlo di essere a Bruxelles quando dovrebbe essere in Sicilia. Va bene, Corrado da Milano, buonasera Corrado. Buonasera, grande Battiato, Presidente della Repubblica. Cioè, in che senso Presidente della Repubblica? Ma grande, ma dice quello che pensano tutti. Ma che cioè, che il Parlamento è pieno di troie? Ma pieno di mignotte, di mignottazze donne, ma anche uomini, vari scilipoti, razzi, questi quei due di picche schifose che non avrebbero fatto niente nella vita. Cioè, lei dice, Battiato non si rivolge solo alle donne, a parte che si rivolgeva alle donne. Ma agli uomini, ma sì, ma le quattro mignottazze le conosciamo tutti. E chi sono queste quattro mignottazze? La Campagna, lì la Bresciana. Lei si assume la responsabilità di quello che dice? Ma per carità. Carfagna, dai, ma... Gelmini, poi? Ma tutte quelle mignottazze che sono lì, che erano lì. Vabbè, questo lo dice lui, Che ancora girano. Beh, lo dico io, Parenzo, ma lo pensi anche te, lo pensa chiunque. Vabbè, no, io non lo penso affatto. Quello che penso io assolutamente. Ma chi se ne frega, lo pensano tutti. Tutti quelli che conosco lo pensano, anche gente che ha votato PDL. Cioè, che cosa? Che Berlusconi ha portato in Parlamento dalle mignotte, dunque ha ragione. Madonna. Ma e ragazzi, dunque ha ragione Battiato, perché lo dice esplicitamente, sì, lo dice chiaro. Poi lui che sia lui non è un politico, lui non è un politico, è uno che è un uomo che fa musica, mi fa anche cagare come fa. Mi piaceva il Battiato fine anni 70, ma dagli anni 80 in poi fa cagare. Comunque ha detto una roba, secondo me, onestissima, tranquillissima. Parla come l'uomo della strada, anche se si ritira da grandi intellettuali. Dice una cosa che pensano tutti, ma amen. Poi purtroppo, beh, governano sta gente, mi vergogno di avere a che fare con queste persone, se vogliamo fare così. Ma mi vergogno anche, non c'entra niente, scusatemi, poi io chiudo. Sì. Quel rincoglionito che ha telefonato prima, quello che avete chiamato voi il politico del PD, sì, che farebbe sì degli accordi con... col PDL, non con Berlusconi. Sì, sì, sì. Ma di che cosa stiamo parlando, come dite voi? Verdini, Alfano. Cioè, in che senso? Scusi, non ho capito. Ma questo, dove vive? Cioè, non si può fare un accordo con PDL senza Berlusconi, carità, dice. Ma dobbiamo far tornare Pol Pot, non lo so. Va bene, grazie Corrado. Salvatore da Bari, buonasera Salvatore. Buonasera a entrambi. Velocissimo. Vada. Sì. Sono d'accordo con il fatto che insomma Battiato non si riferiva solo alle donne, ma era secondo me in generale, insomma. Ma vogliamo risentire anche se si sente male, purtroppo alla radio bisogna sentire tutto bene e questa cosa si sente male, è una delle notizie del giorno, facciamo risentire bene. Uno si rallegra quando un essere non è così servo dei padroni e farebbero qualunque cosa, queste troie qui che si trovano in giro nel Parlamento, ma è inaccettabile. Dovrebbero aprire un casino e farlo pubblico. Queste troie che si trovano in giro in Parlamento dovrebbero aprire un casino. Lei dice, sì, si riferisce anche agli uomini, A persone, sì, io sono... Vabbè, comunque la cosa non cambia. Almeno io la interpreto così, signor Cruciani, io la interpreto così. Non è che cambia la cosa, non cambia. No, cioè, non cambia molto, non cambia molto. Però la interpretavo così, era per evitare l'offesa sessista solo al femminile, tutto qui. Poi volevo dire un'altra cosa a Parenzo, non mi è piaciuto quando l'altro giorno ha accomunato il grillino, i militanti grillino e simpatizzanti a quel signore coprofago che beveva l'urina. Non siamo tutti così o non sono tutti così? No, io ho detto semplicemente, ma infatti è ovvio che non sono tutti uguali, meno male, perché se ci fosse un mondo di grillini bevitori di urina mi spaventerei per l'umanità. Invece non è così, quello però è uno, perché uno vale uno, si è qualificato come grillino, poi ci sono altre stramberie tra i grillini, ci sono persone bravissime. Io mi permetto di dire che in altri movimenti e partiti non ho mai sentito di bevitori di urina, neppure Verdini la beve con tutto quello che fa, neppure Verdini, neppure Cicchitto, neppure Cosentino beve l'urina, neppure Cosentino e va alla radio a dire ho bevuto l'urina. Salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba molto spesso tu si corica, corica, non voglio farti fretta ma... Non sono degni di stare in un Parlamento, sinceramente, finiamolo con questa farsa qui, no? Trasversale? o si riferisce in... La zona purtroppo è un po' limitata, ahimè. È vero, no? Se ti lasci anche piano, si avvicina, avvicina, ti sembrerà una festa un poco sadica, sadica. Allora, la domanda era diretta da parte di Maria Lavenditti, era diretta alle... a Battiato, e dunque si riferiva alle donne, Vogliamo fare risentire, Parenzo? No, perché non è che si riferisse in generale alle donne, sentiamo. No, ma è chiaro, quello che ha detto è chiaro. Non sono degni di stare in un Parlamento, sinceramente. Finiamolo con questa farsa qui, no? Trasversale? O si riferisce in... La zona purtroppo è un po' limitata, ahimè. È vero, no? La zona è un po' limitata, dunque non è trasversale la cosa. Si riferisce, come io dicevo già prima, alle donne del PDL. Allora, lo dica chiaramente, signor Battiato, mi riferisco alle donne che sono andate a letto con Berlusconi, che sono delle troie, che sono delle prostitute e che devono essere, secondo lui, sbattute fuori, non sono degne di stare in Parlamento. A quello si riferisce, facesse nomi e cognomi, altrimenti... Ma perché non hai insistito con la stessa veemenza nei confronti di Feltri, di Guzzanti e di Crosetto? Non capisco. Perché chiedi il conto solo a Battiato? Niente. Chi è adesso? Stefano da Genova, 800 24 0024. Stefano, buonasera. Allora, senta, dissento con lei su qualcosa che è politicamente corretto, visto che lei è dissacrante, però lo è un po', mi sembra, quando le pare. Io sono stanco di sentir dire che gli elettori hanno sempre ragione, riguardo a quello che ha detto Battiato sugli elettori della provincia e della città di Milano. Io gli elettori di quella destra lì, di una certa destra, li conosco, ne conosco tanti. E allora? E per me sono persone poco intelligenti, ignoranti, ma lei è poco un cretino, informate. Ma lei è un cretino. No, lo reputa lei. Che ma lei è un cretino. Poveraccio, non un cretino, un cretino, no, è anche un sono poveraccio. Sono persone oltretutto che incidono sul futuro mio, di mio figlio, di questo paese. Ma lei è un cretino, stanno un poveraccio. Stanno veramente bloccando, noi abbiamo una palla al piede. Sì, e che sono? Gli elettori della provincia della Lombardia, non di Milano, che hanno votato Maroni. Di questa destra populista. Ma lei si deve vergognare. Che gli stessi rappresentanti del PDL vanno in giro a prendere. Ma lei si deve vergognare di quello che dice, ha capito? Ma lei che si deve vergognare. Mai parlare? Lei si deve vergognare, si vergogni. Io sono stanco di vivere in un paese ignorante. Fatto lei è un cretino e anche domina. Un poveraccio. Sono 20 anni e sei un poveraccio. Sì, lei è un cretino e un poveraccio. Anche. Non ho problemi, guardi, è inutile che siamo ipocriti e ci raccontiamo balle. La verità è questa, è sotto gli occhi di tutti, basta ascoltarle le persone. E allora che cosa dovremmo ascoltare? Ascoltarle, le persone, sia se le vedi in televisione, intervistate, sì. Ma anche le persone che conosci, perché io ne conosco tante che votano così, e sono persone anche della mia famiglia, conoscenti, amici del quartiere. Che votano così come, scusi? Persone poco preparate, persone che non gliene frega niente, che non sanno di politica, non sanno neanche dove vivono, non riescono a articolare un pensiero, non sanno neanche italiano. Ma lei è un povero cretino. Lei le conosce? Ma lei è un povero cretino. Ma lei è stato mai in qualche quartiere di Lamezia Terme, ma anche in qualche quartiere del centro storico di una città del nord come Genova? Ma lei è un poveraccio, ha i suoi pregiudizi, le sue malattie, le sue fobie, le sue ubbie. Bisogna... Questa è la verità. Lei bisogna... forse vuole raccontarne un'altra. No, bisogna la compatire. La compatisco, io la compatisco. Ma infatti vede come sta il nostro paese, perché noi non possiamo vivere come vivono i danesi o come vivono gli olandesi o i francesi o gli inglesi o i tedeschi, noi non possiamo avere un regime democratico di questo tipo, perché noi no? Ma quale regime democratico, di cosa sta parlando? Cioè, sto qui siamo partiti da Battiato che in un'intervista però, oggi al Fatto dice a Milano ha vinto Ambrosoli e alla provincia essere ancora ignorante, ma lei si rende conto della cazzata sesquipedale che ma è questa no, roba io qui? Adesso faccio un discorso più generale. Ma più generale di che? Ma ancora peggio? Lei fa un discorso generale che è ancora peggio, Stefano, ancora peggio. Beh, lei faccia un'indagine. Ma indagine su che cosa? Io faccio un'indagine sul suo cervello, lo faccio l'indagine. Ascolti le motivazioni che danno le persone quando votano. Ma io la faccio sul suo cervello, sì, l'indagine. Bisognerebbe farla sul suo cervello l'indagine. Io continuo a subire i suoi insulti. Ma non sono insulti, non so è la realtà, è la realtà. È la realtà. Beh, allora se è la sua la realtà, la realtà che potrebbe esserlo anche la mia. Bisogna fare un'indagine su quello che pensa lei, in particolare sul suo cervello, non si preoccupi. Sì, sì, ma gli elettori hanno sempre ragione, non si preoccupi, dai, continua. Ma io non ho detto questo, a parte che è quasi sempre così, ma questo non vuol dire nulla, cioè finché le cose non si trasformano in cose antidemocratiche. Lei sta dicendo che il voto di uno acculturato o non si sa con quale titolo di laurea vale di più rispetto al voto di un signore che magari non ha letto un libro della provincia di Sondrio. Vale di più quello della persona che vota per altri motivi, insomma, no? Ma non vuol dire, ma che cosa sta a sindacare? Ma cosa sta a sindacare? Ma quello è un altro discorso. Ma cosa sta a sindacare? Ma cosa sta a sindacare quello che vota per quello, vota quell'altro? Pensa al motivo per cui vota lei. Ma lei ha sentito quando i signori del PDL si rivolgono ad arringono la propria folla, cosa dicono? Ma lei li sente? Li trattano come se fossero dei polli da batteria. Non sono io che lo dico. Vabbè, ma sono lei i loro malato, rappresentanti che li trattano come se fossero dei polli da batteria, perché i discorsi loro li può ascoltare lei, li ascoltiamo tutti, e poi prendono i voti e vincono. Lei è malato, dai, vincono e determinano la politica di questo paese, di cui io sono prigioniere, io sono sequestrato da questa gente. Ma da chi? Ma il mio futuro, quello del mio figlio, è sequestrato da questa gente. Ma che sequestrato? Ma lei è sequestrato da se stesso? Sì, sì, vabbè. Dal suo cervello è sequestrato. Lei vive lei vede le cose dall'alto. No, da una ma lei ha un sequestro molto serio. Lei è sequestrato dal suo cervello, tutto, che non funziona. A lei cosa gliene frega che questo paese vada in malora? Niente, infatti. Sì, tanto lei ha la sua, è un super professionista, no? Sì. Si ricicla comunque. Mi riciclo dove? Su che cosa? No, di che stiamo parlando? Così. È così. Battiato a Sky TG24. Sì. Partiamo da zero. Vengo qui a rappresentare la Sicilia con i miei collaboratori e a esporre i nostri piani d'attacco, diciamo, no? Lei pensa che io possa offendere le istituzioni? Non è possibile questo. C'erano anche parecchie donne che alla fine mi hanno fatto una festa incredibile, chissà perché. Durante questo percorso e le nostre esposizioni, quelli che ci hanno ospitato sono rimasti entusiasti di tutto. Alla fine c'è stata una codina, questa qui che dite voi, che poi sono cose che dico da anni, perché il presidente governo aveva delle persone che non erano degne di stare in Parlamento. E l'ho detto. Punto. Questo Battiato, che però dopo specifica in un'altra intervista che in realtà si riferisce alle donne, per cui non è generico. Antonio da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, allora Dell'Utri è un mafioso, se ne faccia una ragione, si rassereni. È condannato in appello per concorso esterno in situazione mafiosa. Quella telefonata ignobile di ieri sera, ha parlato col figlio, ma papà dov'è? Si è fatto già la valigia per andare in galera, è un mafioso Dell'Utri, se ne faccia una ragione. Lei che dice, io guardi, no, a me non me ne può fregare di meno. No, ma allora ma cosa lo dice a fare? Ma qual è il problema? Qual è il problema? Lei vuole... Qual è il problema? È una crucianata della sera. Ma perché non si può volere bene a Dell'Utri? È un problema per lei? Ma ci sono altre persone a cui voler bene in questo Ma sono cazzi miei chi voglio bene. Sono cazzi miei, sì, sono cazzi miei. Ma che ignobile? Ignobile sarà lei, ignobile. Ora va a sindacare Battiato perché ha chiamato Mignone. Ma ignobile sarà lei, ignobile sarà lei. Ma si rende conto? Ma si rende conto che io posso esprimere verso chiunque, verso chiunque, sentimenti di vicinanza, non me ne frega nulla di quello che dice lei. Uno che dice ai ragazzini delle scuole medie mi sono fatto eleggere per non andare in galera, e quando quella ragazzina gli chiese sbagliato, ma allora se io commetto un reato sbagliato, e mi faccio eleggere, e lui dice se ce la fa brava, complimenti, sbagliato, non ci va. Ma io ho, vede che il problema è che io ho l'onestà intellettuale per dire che non sono d'accordo praticamente su nulla di quello che dice, no, su nulla no, non sono quasi mai d'accordo con quello che dice Dell'Utri, dopodiché non, ciò non toglie che umanamente gli vuole bene. No, ma gli voglio bene è un'espressione un po' così, ma lei la prende alla lettera, lei la prende alla lettera. Lei la prende alla lettera, diciamo che non mi sta antipatico, ecco, umanamente, così si può perché? Dire. Perché? Non ma perché sono cazzi miei, Antonio? Ma che vuole se non mi sta simpatico? Un mafioso, non le sta mamma antipatico. Mia, ma lei... E chi è che ne deve stare antipatico? Dio mio. Grillo, chi è che mi deve fare antipatico? Vabbè, anti, continua a spalare merda su Avanti. No, ma non ho capito, ma è questione, cioè dice voglio bene a Delluti. Perché vuole bene a Delluti, faccia capire? Ma... perché le sta simpatico? Un mafioso, cos'ha di bello? Vabbè, che vogliamo io fare? Io sono curioso, poi perché lei chiama la gente malata, matta, sclerata, io voglio capire, no? Lei che dice voglio bene a un mafioso... Lei mi sta dicendo qualsiasi cosa, sarà possibile che io esprimo un'opinione su Dell'Utri? Sì, ma lei sta chiedendo il sì, ma lei mi sta perché mettendo a ca... ma io non ho detto, io ho detto che voglio bene a Dell'Utri, gli voglio bene, è un'espressione che io uso spesso per dire che una persona non mi sta antipatica, punto. Se lei l'ha capita bene, l'hanno capita tutti così, è lei che l'ha capita la lettera. No, perché non le sta antipatico? Perché non mi sta antipatico? Ma nemmeno a Parenzo sta antipatico Dell'Utri, nello stesso modo. Ma non mi sta antipatico, ma non mi verrebbe mai in mente di dire che gli voglio bene. Io a me sta molto più simpatico. Sai bene in che modo sai bene in che modo l'ho detto? Sì, non c'è dubbio, ma lo dici anche in modo provocatorio. Io dico che mi è molto più vicino culturalmente il signor Battiato che non il signor Dell'Utri. Dopodiché può essere simpatico perché è un uomo di spirito, perché è un uomo che affronta anche queste sue sciagure che gli sono un po' capitate, un po' cercate, le affronta con questo senso anche dell'ironia. Dopodiché deve sapere il radioascoltatore che siccome quello è un cattivo, è un mostro per eccellenza, il signor Dell'Utri, a Cruciani piacciono i mostri e i cattivi per eccellenza, mentre il politicamente corretto del grande cantautore mi stanno sulle palle, sì. All'operato. No, in questo caso non è tanto politicamente corretto quello che ha detto Battiato oggi al Parlamento europeo. Ha detto che ci sono troie in Parlamento, non mi pare proprio politicamente corretto, anzi è una cosa molto scorretta. Però secondo me accoppiata alla destra e disumana e accoppiata all'altra follia che Ambrosoli ha vinto a Milano e Maroni l'hanno votato solo gli ignoranti della provincia della Lombardia, e il risultato è che secondo me Battiato è un cretino, punto e basta. In Parlamento vi sono troie disposte a tutto? Ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino. To che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino. In Parlamento vi sono troie disposte a tutto. Ci sono troie in giro in Parlamento. E siamo qui, la Zanzara, 800240024 con Matteo Salvini, eurodeputato della Lega Nord. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera a voi, scusatemi l'ignoranza. Ma da dove chiama? Togliti dall'auricolare da o dalla viva chiama? Voce, perché è una cosa tremenda. Matteo, scusa, ma dove sei? A Bruxelles, a Strasburgo oppure sei in Italia? Sono nel salotto di casa mia, in centro a Milano, in centro mica tanto, ma nel salotto di casa mia. Nel salotto di casa tua? Allora ma ci deve essere una caverna. Che c'è? Una caverna? Si sente un ritorno pazzesco. Ma che stai? Sul telefono fisso, sul cellulare? Dove stai? Sono sul telefono, non ho più il telefono fisso da anni per non ingrassare la Telecom. Ma sei ingrassato tu d'altra parte? No, ho perso un chilo, la bimba di 3 mesi tiene destri. Allora, ecco Beh. L'ignorante per eccellenza, Matteo Salvini, l'ignorante, però è milanese in realtà Salvini, per cui non è ignorante. Sì, sono milanese, però mi sento bergamasco, bresciano, mantovano, varesotto, cuneese, vicentino. Allora, manda a fare in culo Battiato subito, avanti, ci vuole una risposta adeguata, caro Salvini, adesso non è che uno può rimanere così. Oltre alla cosa di oggi delle troie in Parlamento che fa rumore, cioè, ripeto che Battiato ha detto in un'intervista al Fatto, a Milano ha vinto Ambrosoli, e la provincia è essere ancora ignorante, questo ha detto. Rispondiamo adeguatamente, signor Salvini. Ma ha detto quello che ha detto, peraltro sul versante opposto a Albertini. Questa è supponenza. Ah, è vero, Albertini l'ha detto sì una volta. Sì, non è supponenza, così. È arroganza, è ignoranza, perché se qualcuno girasse per le pianure e per le valli, c'è gente che magari ha da insegnare, ha i calli sulle mani e ha da insegnare a qualche cittadino come me. Però a me Battiato piace finché canta la cura, poi quando fa l'assessore part time e va a Bruxelles, la dove la regione Sicilia ha qualche problemino di finanziamento e fa parlare di sé non per quello che vuole fare ma per queste cazzate qua, secondo me fa un danno. Vabbè, ai cittadini siciliani innanzitutto. Che c'è Parenzo, che c'è? No, voglio dire, non capisco perché Salvini si indigna così, ha espresso un parere e non c'è mica da, cioè, da essere fieri di essere rozzi, perché non dici così? Siamo fieri di essere rozzi, questa no, sembra la forza della Lega. Fammi capire, Regione Sicilia ha un buco di 2 miliardi di euro, il turismo di cui Battiato è assessore sta soffrendo perché la gente va a Malta, va in Grecia, va alle Baleari, e questo mi viene a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, e parla per di troie. Promuovere il turismo mi dà delle troie alla parlamentare italiani, non mi sembra geniale per promuovere il turismo in Sicilia. Ma che poi queste troie, queste zoccole ci sono o no in Parlamento secondo te? Ne ho idea, non sono stato a Roma e io rispetto chiunque non la pensi come me. Ascoltavo, quello che mi preoccupava di qualche ascoltatore fa è la certezza di essere unico depositario della verità, che spesso e volentieri purtroppo a sinistra fa breccia, nel senso che se la pensi come me sei intelligente, se non la pensi come me sei tendenzialmente... No, è bello che poi, al di là di... a me dicono di tutto, poi io quando io provo, adesso mi stanno arrivando delle mail, no, smettila di insultare, cioè uno mi dice, poi appena io dico, no, guardi che da curare c'è il suo cervello, non è tanto... Cioè, io sono fatto così, cioè se uno dice ha ragione Battiato quando parla dei cretini che hanno votato per Maroni in Lombardia, ma non perché io l'abbia fatto anch'io, perché ho votato a Milano, città, dunque è diverso, ma perché proprio ho sbagliato il ragionamento in partenza, cioè perché se uno dice io ho votato Ambrosoli, ho votato centrosinistra perché mi piacevano più i programmi, perché quello mi sta sulle palle, eccetera, nulla questio. Il problema è che come si fa a dare a una parte di un elettorato importante della Lombardia la patente di ignorante, è proprio un ragionamento folle. Cioè, beh, l'ha fatto anche Berlusconi. Ma sì, ma infatti anche quando Berlusconi l'ha fatto ha sbagliato, nessuno ha detto dando contrario. Dando dei coglioni a chi votava sì, per cui non capisco... Ma sì, che vuol dire? Ma ha sbagliato anche Berlusconi? Ma che vuol dire? Ha sbagliato anche Berlusconi, Parenzo, e non capisco perché ti attacchi a questa cosa, l'ha fatto anche Berlusconi, io allora... No, io infatti dico che su quello Battiato ha sbagliato, sulla sua analisi, non capisco... Non cosa? Capisco sull'analisi delle troie in Parlamento? Non ho capito, sulle troie in Parlamento, no, ma va benissimo, ha detto una cosa chiara... su quello... Ma non è un accanimento, è una delle notizie del giorno, che vuol dire accanimento? Adesso non è che dobbiamo... No. No, perché hai iniziato dicendo deve dire, ma a Feltri non gli hai detto devi dire, a Guzzanti non gli hai detto devi dire. Si dà il caso, ma io l'ho detto anche... Ti dà fastidio che lui canta all'opera, tu non ci andrai mai all'opera. Scusate, ma che cazzo me ne frega dell'opera? Come è capitato anche a me di dire cazzate in passato, ma c'è una sola soluzione per uscirne, due paroline, chiedo scusa. Ci voleva tanto da parte dell'assessore Battiato a dire chiedo scusa, non volevo dirlo. E invece andare avanti, ripeto, a Bruxelles, io ero a Bruxelles oggi, sì, non si parlava di lavoro, di sviluppo, ma delle troie, delle troie. Si parlava di questa roba qua, e il Parlamento rideva, evidentemente. Si è dimesso dal Parlamento italiano, dalla Camera? Il giorno stesso in cui mi è arrivata l'elezione mi sono dimesso dal Parlamento italiano. Con grande contentezza? Diciamo che preferisco continuare a fare il lavoro che sto facendo a Bruxelles, dove il lavoro non manca nonostante le segnalazioni di Battiato. Senti, ma sei contento di non avere come presidente la Boldrini? Sì, assolutamente, non mi piace per nulla. Sei contento di non essere dunque rappresentato nello stesso emiciclo della signora Boldrini? Posso rispettarle, le auguro buon lavoro, piace come è iniziato, è assolutamente parziale, faziosa, lo era quando con le stellette dell'ONU veniva in Italia a pontificare su come dobbiamo trattare i rifugiati, i clandestini e quant'altro, lo è adesso come Presidente della Camera, visto che la prima cosa su cui è esternato è la cittadinanza da dare ai figli dei cittadini. Cioè, ma se ne frega rappresentava le Nazioni Unite, però, non è che rappresentava Bubù, non è che rappresentava Bubù di Varese, rappresentava le Nazioni Unite, non era... Ed era evidentemente di parte, cosa che adesso è sotto gli occhi di tutti, visto che ma è stata eletta per Sinistra, Ecologia e Libertà e pontifica come faceva degli scalini dell'ONU. Non è che se lavori per l'ONU devi essere super parte, più intelligente di altri. Ma dunque l'Italia si riempirà di immigrati, cioè l'elezione della Boldrini? No. Direi che quando incontro la gente anche che non vota Lega, la priorità di cui mi parlano è lavoro, vabbè, tante, è quello, vabbè, questo non la cittadinanza, gli immigrati o quelle robe lì, onestamente. Cioè degli immigrati, quelle robe ma lì. Non è che adesso lei sta lì che è un programma di governo, cioè sta lì, è presidente della Camera, anzi sì, sei presidente della Camera, e dunque? Se io sciaguratamente dovessi fare per mezz'ora il Presidente della Camera, come prima preoccupazione probabilmente avrei lo sblocco delle pensioni o ma il pagamento... Ma chi lo sblocco delle pensioni? Il Presidente della Camera fa cazzo da questo punto di vista. Non la cittadinanza ai figli degli immigrati. Secondo me non ha il senso delle priorità del Paese. Vabbè, come comunque. Bersani, d'altronde. Ma secondo te più italiano è Shaarawy o Balotelli? Tutte e due. Poi giocando nel Milan mi stanno estremamente simpatici entrambi. Ma tutte e due alla pari oppure c'è qualche differenza? Tutte e due... No, assolutamente no. Mi sembra che il Shaarawy sia ligure e Balotelli bresciano. Quindi sì. L'unica differenza è che uno ha visto il mare e l'altro no. Però scusami Matteo, ma... Ma lei tifa di più per la nazionale padana? Ecco o appunto, per però Milan? Il fatto che ci siano Shaarawy e Balotelli, in questo momento io c'è tipo un Milan e basta. C'è io un ritorno Milan e basta e detto questo Balotelli e del Shaarawy hanno tutto il titolo di giocare nella nazionale italiana. Benissimo, allora torni a fare il tifo per l'Italia, cioè ritiri fuori la bandiera italiana perché ci sono Balotelli e Shaarawy, diciamola tutta, no, la tifosa del Milan. Appunto, ma questo a prescindere dalla Lega, da Balotelli, dal Shaarawy, la, nazionale Padana. Il calcio comincia e finisce col Milan. Però la nazionale Padana è morta, su, è finita, è tutto finito, dai. Io tifo Milan, punto e basta. Detto questo, Balotelli del Sharawi potrebbero essere una grande coppia d'attacco per la nazionale Padana di calcio. Ma no, ma, sì, no, vabbè, ma che sì, nazionale vabbè. Padana? Ormai sono la nazionale italiana, adesso poi vanno a giocare con la Padana che non esiste più da quando non c'è più Renzo Bossi che fa che dice la sua nella Lega. Su, dai, è finita quell'esperienza lì. Dimmi la verità, è morta e sepolta la nazionale Padana di calcio, almeno quella di calcio, è morta e sepolta. Beh, non gioca da tempo, non penso che questo tolga il sonno a chi ci sta ascoltando. Appunto, no, quello sicuro. Sì, ma ora vi occupate di altro, diciamo. Detto questo, continuiamo a chiamarci per vostro scorno, Lega Nord, per l'indipendenza della Padania. No, vostro scorno, ognuno ha i sogni che ha nella vita. Ma sì, come dire, ho visto che a proposito di Europa, in Scozia faranno un referendum sull'indipendenza della Scozia a settembre, in Catalogna l'anno prossimo, quindi evidentemente... L'autonomia non è una proprietà cioè comunque allora il sogno è quello che El Shaarawy e Balotelli un giorno possano giocare in una nazionale di una Padania indipendente. Assolutamente sì, questo è il grande sogno, diciamo. No, beh, diciamo che ho altri grandi sogni, altre priorità. detto questo calcisticamente parlando non mi dispiacerebbe come coppia d'attacco. Ma dai, su, però Matteo, bisogna essere realistici, giocheranno con la nazionale italiana, cioè, è vero che sono giovani, parlavamo di Sicilia, sono giovani, sono giovani, e c'è tempo e quindi magari la vedranno, cioè una, meglio una loro comunque dei siciliani in nazionale italiana. No, assolutamente. Lasci perdere, il problema della Sicilia però è che dai nostri amici di Un Giorno da Pecora ha detto anche Salvini qualche giorno fa che ha delle notizie sul fatto che Balotelli può votare per la Lega. Allora io voglio capire questa cosa, è vera o non è vera? Stavolta la sei inventata sul momento. Ci sono voci in questo caso da amici conferme comuni bresciani. Abbiamo conferme? Ma chiedetelo a lui. Ma no, amici comuni bresciani, che vuol dire? Tanti cittadini italiani o italiani naturalizzati o figli di genitori che arrivano da altre parti che votano Lega. Per me ha votato Berlusconi, Berlusconi. Ma può essere, chi lo sa. Diciamo che ragazzi, è talmente gol che fa in campo, non sono di quelli che usa appunto... coloro che hanno successi altrove per raccattare. Vabbè, però se uno dice una cosa la dice perché sa delle cose, la famiglia sì, è di sinistra. Essere, può essere che Balotelli abbia votato Lega, detto questo non cambia né la mia vita né quella dei cittadini. Ma no, quello no, certamente, però la famiglia lo sai che è un po' di sinistra, no? La famiglia di Balotelli, tu non sei... Non ho il piacere di conoscerli, però hanno che votano di sinistra, no, non sono ignoranti per questo. Ma lo candideresti in una Lega uno come Balotelli? Beh sì, sarebbe che no? Sì, prima parliamo di che cosa vuole fare, perché non è che candido Balotelli per no, però lo candideresti, però lo candideresti, cioè uno come Balotelli, una persona parliamo di che cosa dobbiamo fare e poi se concordiamo su cioè se lo scopri leghista, se lo scopri leghista che ha votato Lega lo candideresti al volo, se metti che si vuole candidare lo candideresti al volo uno come Balotelli. Ma il problema qual è? Il colore della pelle. No, se non dovrei candidarlo, ma no, figura, ma quanti voti porta uno come Balotelli? Un sacco di voti, porta voti, diciamo la verità, porta voti. Non lo so, lo candido se ha qualcosa da dire, da dare e da fare, altrimenti se lo devo candidare perché si chiama Mario Balotelli e ha la cresta in testa, evito di candidarlo. Buongiorno, sono Vito. Allora, innanzitutto volevo smentire questa cosa che io stavo dormendo. Ero in collegamento telepatico con Casaleggio, ma purtroppo ero occupato perché il Casaleggio in quel momento era in collegamento telepatico con Grillo. Quindi io stavo aspettando che mi arrivasse il segnale telepatico da parte di Casaleggio. E questa cosa si può fare solo tenendo gli occhi chiusi. Questo è quanto. E non mi rompete la minchia. Dopo questa cosa meravigliosa di Fiorello su Vito Crimi che si è addormentato alla Camera, stupendo, a proposito di Morfeo al Senato, pare che siano arrivati insulti a Fiorello. Beh, ma voi vi rendete conto o no? Ma calmatevi ragazzi, calmatevi, insultate noi. Fiorello che non se la prende con nessuno, che fa satira. Ma che poi è strano perché voglio dire, questo è un movimento fondato da un comico e questo lo sappiamo, certo, è un comico che ogni giorno dice, ma giustamente, le peggio cose, con parolacce, battute sagacissime e quant'altro, e poi rompono le balle a chi fa ironia su di loro, ma sono con peggio dei partiti tradizionali. Andreotti aveva più senso dell'umorismo di questi grillini, vergognatevi, Andreotti aveva più dignità, perché aveva il senso dell'umorismo, la gobba, l'hanno preso per il culo, per la gobba, per anni, Belzebù, di tutto gli hanno detto, e quello stava zitto e ci guardava dalla televisione con quello sguardo così intrigante, e gli hanno detto, e questi qui non sopportano l'ironia, il movimento fondato da un comico, da un comico! Andate a fanculo, basta! Appunto, appunto. Siamo in collegamento da casa sua, dal divano di casa sua, con Matteo Salvini, che colpevolmente non è in Europa. Ma cosa fa di martedì a casa sua lui? Ma dovrebbe essere al Parlamento europeo, signor Salvini, lei è un assenteista proprio matricolato. C'ero oggi al Parlamento europeo, sono tornato apposta per voi. Sì, mio nonno. Domani comunque che facciamo? Se andate sul sito matteosalvini.eu trovate tutto quello che faccio e ottengo in Europa. Ma lo so, lo sappiamo. Mi non si fa... sappiamo. Ah, noi scherziamo. Comunque vediamo sull'assenteismo, sulla percentuale comunque dell'assenteismo. Comunque ha detto basta. No, spero non sia vicina a quella di De Mita, la sua percentuale di presenza a Bruxelles e dintorni. Non incontro frequentemente De Mita. No, ma nessuno lo incontra frequentemente al Parlamento neanche europeo. Neanche se stesso, neanche lui si incontra frequentemente probabilmente. Sì? Detto questo, non so se Battiato abbia chiesto scusa, lo spero. No, non ha chiesto scusa. Perché? Ma che noia. Perché basta chiuderla, perché poi la Sicilia è una terra stupenda ma con tanti problemi. Io ho letto che ieri gli operai forestali hanno occupato 50 comuni in Sicilia perché vogliono la stabilizzazione. Io all'assessore Battiato chiederei con che soldi si possono stabilizzare 25.000 operai forestali che ci sono in tutta la Sicilia, che è un record mondiale ineguagliato nei secoli. Adesso lei vuole stabilizzare tutti, il lavoro, non vuole stabilizzare quelli siculi. Permetta adesso. Non a spese nostre, no? Alcuni non miliardi a spese nostre. Di euro di buco la regione Sicilia, non imputabili evidentemente al nuovo governatore Crocetta, però... Sì. Anche solo ipotizzare di stabilizzare 20.000 persone, sì. Io ricordo che il Canada di Ranger ne ha meno di 1.000, la Lombardia ne paga 500 e c'è qualcosa che non gira. Allora Salvini, però ti voglio chiedere qualcosa, Matteo, su Berlusconi e la questione della fiducia, no? Cioè di Bersani. Allora, io voglio capire, la Lega, dimmelo chiaramente, può immaginare... tu mi dirai non sono affari tuoi il Parlamento, però vuol dire sei un dirigente della Lega, può immaginare di dare una fiducia a Bersani oppure di utilizzare qualche tattica parlamentare in disaccordo con il PDL? Assolutamente no, sarebbe una presa in giro nei confronti dei nostri elettori e mancanza di serietà, quindi è assolutamente fantasia. Cioè è impossibile che voi sulla questione dell'atteggiamento nei confronti di Bersani abbiate una posizione diversa da quella del PDL? Beh, mi spieghi lei perché? Ma è una domanda. È assolutamente impossibile, ripeto, fra le priorità Bersani legittimamente parla di conflitto di interessi, di unioni gay, di cittadinanza ai figli dei cittadini immigrati, non sono esattamente le priorità di cui parla la nostra gente, quello, ci ha votato, quello va bene, d'accordo, però dunque esclusa la possibilità che poi nei giorni scorsi se ne parlava, no? La Lega vuole governo stabile, non vuole nuove elezioni, però non capisco perché, è vero o no che non volete nuove elezioni? Guardi, per noi sarebbe comodo, io oggi ho chiesto su Facebook sulla mia pagina come dovremmo comportarci secondo i lettori e tutti dicono ma non faccia anche lei il grillino, io ho la mia idea che coincide spesso e volentieri con quella lo fa sempre ma voi siete seri, avete le sezioni, avete il territorio, non fate non capite io delle puttanate. Ho la mia idea e la Lega ha 600 sezioni solo in Lombardia, le decisioni vengono da lì, non da Casaleggio, da Pinco, da Pallino. Basta con sto Facebook. Confrontarsi. Ma perché basta? Confrontarsi. Vabbè, allora da Facebook che viene fuori? Che a noi converrebbe solo stare sulla riva del fiume ad aspettare che Bersani si schianti. Quindi se io dovessi fare un ragionamento cinico ed egoistico, faccia lui, non ha i numeri, andiamo a votare, pigliamo più voti di prima. Probabilmente mi metto nei panni di molti che ci stanno ascoltando, perdere altri 2 o 3 mesi senza parlare di lavoro, di economia, perché con un governo cambierebbe tutto. Poi questa cosa qua, perché se non c'è un governo allora non ci saranno i provvedimenti. Sono stati 2 anni senza governo e non c'è stato il disastro, è stato un dramma, è vero anche questo. Però siccome qualcuno le elezioni le ha vinte, sono indubbiamente Bersani e Grillo, se questo qualcuno i voti li vuole usare per fare qualcosa, ha tutto il diritto di farlo. E altrimenti si torna a votare. Dunque non avete paura di nuove elezioni? Ma assolutamente no. E non date... me le auguro, perché significa altri soldi da spendere e altri mesi di cagnara, però sicuramente la Lega non ha mai avuto problemi. A proposito, ma Maroni non ha scelto troppi sottosegretari là, 4, un po' troppi, eh? No, ma questo non ne ha scelto neanche uno. Questa è fantasia giornalistica. C'erano 4 sottosegretari, ad oggi non ce n'è neanche uno. Se li sceglierà, ne sceglierà al massimo 2, quindi la metà. Ha tagliato il numero di assessori, ha tagliato i bilanci dei gruppi consigliari. Vabbè, ha tagliato vedremo, del 30% i budget degli assessorati, quindi... fantasie, penso che abbia tagliato fantasie. Tutto quello che poteva tagliare nella prima settimana. Fantasie. Comunque, lei mi conferma, caro Salvini, che voi non farete mai nascere un governo Bersani, se per quello che vi riguarda, in nessun modo, né uscendo dall'aula, né con un... che Bersani non cambi idea, non cambi ordine di priorità, ma non sa, il PD ultimamente non cambia atteggiamento anche nei confronti di Berlusconi. Voi sapete che io ho avuto spesso parole non propriamente tenere nei confronti di Berlusconi e continuo a pensare ed augurarmi che la politica possa andare avanti e guardare avanti. Però, adesso però andate a braccetto, andate insieme a fare le consultazioni. Se insieme per vincere la regione Lombardia, sarei poco serio se dicessi e facessi qualcosa di contrario. Piaccia o non piaccia, saremo brutti e ignoranti, però governiamo. Marciate insieme, su. In onda Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Marciate. E esattamente... marciate insieme, su. Per adesso marciate insieme. Aspetta sì, un attimo. Io poi peraltro vedo il TG5 che purtroppo parla di Battiato. È per forza, non certo. Per la Sicilia, è per forza. Ma per le sue un tristi dichiarazioni. È quindi... per forza, è di quello si parla. Chi c'è? Ma è un brutto servizio reso ai cittadini siciliani. Vabbè, ho capito, adesso quello poi vediamo. Si dovrebbe dimettere da... Anarella? Chi è? Sono Cruciani, che è successo? Stai male? Che è successo, Anarella? Sono cascata, c'ho avuto una cosa, come si dice. Che è successo, cara? Che è successo? Dimmi. Ma che c'è il medico? Sei cascata dove? Dove sei cascata? Ma l'altra mattina mi hai chiamato? No, che l'altra mattina? Oh, mi hanno chiamato, dice che eri te. No, che ne so, sì, può darsi che ti hanno chiamato, che erano i miei assistenti, può darsi. Ma che hai fatto? Sei caduta? Sono cascata, c'è avuto un trauma cranico. Ma no. Veramente? Ma dove sei, a casa o in ospedale? Sono stata all'ospedale. Ma sei tornata a casa adesso? Sì, sto a casa. Ma come poverina. Ti senti? Come ti senti? Ha la capoccia che gira. Mamma mia. Non è che adesso ti piace Berlusconi, visto che hai fatto la caduta, no? Mamma mia, ammazzati tutti. Brava. Sono rotta lì con tutti. Vedi che è lucida. Oggi dunque non sei potuto andare davanti alla camera. Oggi, meno male no, che è una settimana che ci vado, che oggi, sì. Ma quando è che sei caduta? Scusa, ci siamo cammino per casa qua a Stampella, che se no casco per terra un'altra volta. Ma come hai fatto a cascare, gli dico io? Sono cascata su, c'avevo i battiti perché soffro del colpore, no? Mamma mia, guarda. Mi chiama del dottore, ho detto, se 109 battiti, che devo fare? Io ti ho piato mezza pasticca, quella che più del cuore. Sì, allora? Dice, tieni un'altra mezza, ma sì, è stata quella, o che è stata? Tornata, perché io sto al lattico, no? Sì. Ho messo un piede fuori dalla cucina, non lo so che è successo. Io mi sono trovata che il cagnolino che ho qui, che è il cucciolo, c'ha 3 mesi. Lo so. Non so dove ho battuto, se ho battuto addosso a un vaso, dove ho battuto, non lo so. So soltanto che io mi sono presa, sono cascata e c'avevo un barnoccolo dietro la capoccia e ancora mollo. E poi, come si chiama? Chi? Ho battuto a diversi posti. Ma hanno dovuto chiamare al 118 e mi ha portato subito all'ospedale. Speriamo che ti facciano almeno il regalo di Bersani che fa il governo in questi giorni. Ma qua sono tutti matti, sono diventati. In che senso? In che senso, scusa? Ma in che senso, Ani? In che senso? Qua nessuno va d'accordo, tutti se vogliono mettere in poltrona. Ci mancava Monti, che il presidente della Repubblica va a mettere Monti, che ha finito da rovinare all'Italia. Vabbè, che c'entra Monti? Adesso non c'entra niente Monti. Ha visto oggi si è dimesso pure quello per via di quei ragazzi. Sì, terzi, sì, terzi. Lui mica c'era però lì al coso, mica ci stava lì al Parlamento, c'è il ministro che si è dimesso. Però non ti scaldare troppo, sennò poi ti senti... ammazzarlo. No, però non ti... Lui ha messo, che tocca pure al napoletano. Non ti... È importante, mi pare che sia bene però perché... Ma Battiato l'hai sentito oggi che ha detto che ci stanno tutte troie in Parlamento? Hai sentito Battiato che ha detto oggi, no? Perché hai seguito poco. Ma che n'ha, sa fanculo quello. Ma chi, Battiato? Incoglionito. Ma chi, Battiato, dici tu? A me, mai piaciuto, senza mo. Ma perché vecchio rincoglionito, che ha fatto? Non mi piace, è un uomo che a me non è lui, c'è soltanto che chi li vede, mi vede e mi sento. No, è bello. Oggi al Parlamento ha parlato meglio il grillo e il grillino là che c'era che tutto il resto. Ah sì, adesso sei diventata pure... No, ha parlato bene, io dico le cose che so. E questi della Lega potrebbero votare per Bersani, lo conosci il signor Salvini, eurodeputato, lo conosci? Ma chi dice, la Lega vota per Bersani, ma che senso sta dai numeri all'otto? No, ma infatti pure loro dicono che non lo votano alla fine, no? Non lo votano, però sai, ma lo conosci... Grazie, visti, capirai. Ma lo conosci il signor Salvini? Tu, Salvini, Matteo Salvini, lo conosci? Che dicevi? Ma Salvini, quello della Lega, lo conosci, sì o no? E chi? Salvini, lo conosci o no? Quello che ami. Quello... Lo conoscerò senza meno, io conosco tanti, pure Bonanno. Bonanno ci saluto tutto. Se danno, quando si vedevo si davo pure un bacetto. Con Bonanno, Bonanno sì. È bravo. Bonanno è bravo. Ma io quando sono bravi, a me perché si è partito sozzo, sì, e quando decide mignotte mi stanno bene. Oggi parliamo di patti territoriali per la sicurezza, vogliamo demaffizzare l'Expo, vogliamo che la Lega startuppi e demaffizzi. Demaffizzare l'Expo, non riesco neanche a dire, proprio studiato tanto. Quindi le ronde padane contro i negri e gli immigrati terroni che ci piacevano tanto, non ci sono più. Le ronde? No. Le ronde no. Ti prego. Le ronde no! Ti prego Umberto, però. Le ronde no! Umberto! Le ronde, non ci sono più, non ci sono più le ronde per Cusani! Ma non fai farlo che solo! Che rompe del nome, sono Vendrani! Non dire Vendrani! È Vendrani! E ti prego! Le ronde, ma sono... Umberto! Dai! Salvini, le piace questa parodia di Maroni, Bossi, di Crozza? Oppure c'è un'ossessione di Crozza? No, a me Crozza mi piace, è uno dei migliori. Ah, sì, vedi? Bene, bene. Bisogna saper ridere di se stessi, altrimenti non si va. Questo mi preoccupa di Grillo, onestamente. Chi non ride di se stesso è un problema. Però secondo me lei si sente più vicino ai grillini che ai berlusconiani, così come indole, o no? Io mi sento tante cose, mi accusano di essere un leghista di sinistra perché faccio alcune battaglie fregolette di sinistra sull'ambiente, sulla regolarizzazione della prostituzione, sui diritti civili, quindi... Vabbè, però si sente, un po' d'accordo. Se i grillini imparano qualcosa di buono, benvenuti. Per il momento sono partiti col piede sbagliato, mi permetto di dire. Su che cosa, per esempio? Su tutto. Non va via, più che dire che bisogna bloccare tutte le strade in costruzione, la pedemontana, la tangenziale, la Brescia, Milano. Beh, l'hanno sempre detto. Quindi lo vadano a spiegare ai pendolari o a chi sta tre ore in coda sulla tangenziale che non c'è bisogno di nuove strade. Quindi... Senta, Salvini, ma Bossi ha detto che Maroni ha il culo largo, che occupa molte poltrone. Questo è interessante come cosa, soprattutto la cosa del culo largo, Al di là dell'apprezzamento fisico, Maroni si è dimesso da segretario. Questo lo sappiamo, si è dimesso. Noi ci siamo permessi di dirgli che visto il caos che c'è a livello generale... è meglio rimanere segretario. Congressi adesso, senza sapere se a Roma si vota tra 15 giorni o meno, non ci sembra una genialata. Ma perché si impiccia ancora Bossi? Perché, scusi? Si impiccia ancora Bossi. Perché comunque è presidente federale... No. Ma non farebbe meglio a tacere alcune volte? Cioè non farebbe... No, un po' da parte, alla fine. In politica la riconoscenza... No, d'accordo, però il culo largo, quando uno dice il culo largo... Sì, questa se la poteva risparmiare sicuramente. In un momento di difficoltà la gente non ha voglia di polemiche politiche. Guarda, domenica 7 aprile noi saremo a Pontida per un momento di incontro. Che succede a Pontida? Ancora a Pontida? Ancora a Pontida. Ancora a Pontida. Pontida c'è un bellissimo comune, c'è un bellissimo santuario e ci sono... Ma che fate, un raduno anticipato? Eh sì, 7 aprile, perché non si può fare una manifestazione il 7 aprile? No, sì, un raduno anticipato. La fa Berlusconi, la fa sinistra, la fa Grillo e... No, ma certo, ma che è il solito Pontida oppure un'altra cosa? Non ho capito. No, il solito Pontida, ci saranno quattro governatori. delle regioni del nord che parlano di futuro. Ah, no, ma voglio dire, non è la Pontida. Sì, ma non è la Pontida quella, la solita manifestazione classica. No, c'è la solita manifestazione, fra virgolette, la solita bellissima. No, ma io non lo dicevo in senso negativo. Ci sarà magari il militante con i baffi colorati. Diciamo che non avete, non inviterete la signora Boldrini, ecco, insomma, diciamola, diciamo. Se vorrà venire a portare un saluto, ma la benvenuta, però non penso sia il contesto utile. Come sarebbe a diciamo che dovrebbe venire con le guardie, con le guardie del corpo, secondo me. Questa no, guardi, la Lega, i leghisti avranno tanti difetti, ma mai un episodio di violenza è stato riconosciuto. No, d'accordo, però mi dica la verità. Ma Bordizio lo farete parlare stavolta, o gli mettete la mordaccia? Penso che parleranno i governatori. È un momento in cui parlare poco e lavorare tanto, quindi parleranno loro. Che però diciamo che se dovesse arrivare la Boldrini non verrebbe accolta con rose e fiori, ecco, quello insomma. Immagino che qualche fischio se lo piglierebbe, ovviamente e giustamente. Detto questo, parleranno Zaia, Cota, Maroni, magari avrò la sventura di parlare. Ma sì, parlerai anche tu. Parlerai anche tu, sicuramente. Vi aspetto sotto il palco. Ah, poi Parenzo verrà. Soprattutto Parenzo. Sei contento della condanna di Dell'Utri? Non sono mai contento della condanna di nessuno, non conosco le vicende. Però non piangi, insomma, non stai lì a gridare alla persecuzione di Dell'Utri. Quando qualcuno finisce in galera non è mai una... No, in galera ancora no, è stata respinta la richiesta di arresto, peraltro. Detto questo, non sia a sinistra che a destra, quando si dice... Però non è che stai lì, non è un perseguitato. Non sto perdendo il sonno per questo. Devo dire che tornando a Berlusconi, mandargli la visita fiscale in ospedale, secondo me, è un affronto all'intelligenza delle persone, a prescindere da come siano politicamente. Grazie, a presto! Saluti! Ciao! Susi, ma Susi, che ci devi dire, cara Susi? Ancora. Susi? Pronto? Buonasera, dove sei? A 14? Buonasera. A 14? Sì, a 14, solito parcheggio San Lorenzo, direzione sud. Che hai fatto? Quando ho lavorato ieri. Passaci qualcuno, Susi, così tanto per... Niente, prima c'erano due autisti che stavo, ho detto, guarda, un attimo che devo fare una bella diretta. Senti, comunque ti ascoltano tanto, mi chiedono i camionisti quando vai in diretta, fai bene, dici la verità, sia dei preti, hai fatto bene. Poi mi hanno chiamato anche delle mie amiche trans e degli ascoltatori con viaggianti trans. Con le macchine. Ottimo, amiche trans, interessante. Scusi un attimo, scusi, cara... ma quanto ha guadagnato ieri sera? Mi dica una cosa, sì. Quanto ha guadagnato la signora Susi ieri? Aspetta con queste domande, cioè, hai fretta. Che prima lascia parlare lei. Susi, cosa ci voleva dire? Volevo dire una cosa. Sì, però abbassi la radio, abbassa la radio, Susi, abbassa la radio un attimo, chiudila, spegni. Voglio una risposta da un politico. Su che cosa? Allora, è possibile, io che sono residente al comune di San Salvo, no? Provincia di? Vado in comune perché io non ho reddito, non ho nulla. Vabbè, però. Questo devono pensare, che devono formare un governo, e che sia Berlusconi, e che sia Prodi, e che sia... ma che vuoi, tu non ho capito. Che sia, devono risolvere i problemi della gente, perché la gente, uno può anche sbagliare, no, tutti addosso a Berlusconi. Vabbè, adesso, io Susi, non perché adesso, sia Berlusconiani, non ti puoi inventare analista politica adesso, detto con tutto il rispetto, no Parenzo? No, però chiedo una cosa, chi sia che vada a governare, no, Berlusconi ha fatto delle proposte buone, allora mo ha fatto, se dici, vabbè, però dici una cosa, passiamo alla domanda di Parenzo, cosa volevi chiedere? No, volevo sapere quanto ha guadagnato ieri sera col suo lavoro. Sì, con il mio lavoro? Allora, ho fatto 150 qui nel parcheggio, 150 e 70 che? A casa. 150 oggi. Che è una, con quante persone 150? Beh, 20 a testa. 20 a testa. Un po' il conto. 20 a testa, pochissimo. Beh, ma i camionisti sono la categoria che non li calcola nessuno, li calcolo io, sono i più dolci che esistono. Scusa, e tu i fai più 20, che mi vogliono. 20 euro per fare cosa, scusa? Beh, totale, servizio completo. Cioè, 20 euro servizio completo che vuol dire, scusa? Bocca e si scarica il sopraccarico da dietro, no? Non ho capito questa cosa del sovraccarico. Però, il sovraccarico da dietro non l'ho capito bene. La bocca l'abbiamo capito tutti. Il sovraccarico da dietro non si è capito. È il sovraccarico perché quando vanno pesanti, sai, io lo scarico un po' da dietro e va bene così. Anzi, loro lo scaricano a me. Aspetta, sto sbagliando. No, cara Susi, scusa, però 20 euro, 20 euro per tutta questa serie di servizi mi sembra un po' poco come cosa. Beh, no, va bene. Ma tanto se aumenti i prezzi c'è la crisi, poi i camionisti li dovete calcolare di più. Ma noi li calcoliamo molti. Abbassati i viaggi e quindi... Dunque, 150, oggi hai fatto 150 più 70? Ho fatto 150 qui in parcheggio e 70 a casa. 70 a casa con una persona o con più persone anche là? Con due, veramente. Con due insieme? No, 40 uno e 30 l'altro. In due lo so, anche in tre. Scusi, ma perché c'è questa variabilità di prezzi? Questo non capisco. Beh, perché una 20 e una 30? Non ho capito bene, scusi. Uno fa un ragazzo che viene sempre, quindi ha fatto solo una cosina veloce, l'altro 40, un po' più così, no? Sì, sì. Ma c'è la carta c'è anche annunci di coppie, scambi di coppie. Quello, vabbè, scambi di coppie ormai è normale. Non è normale. Beh, normale, sì, insomma, beh, normale, è una cosa abbastanza comune, insomma, non è una cosa. Ti scandalizza, Verenzo, lo scambio di coppia? Scusa, non ho capito. No, per carità, però voglio dire adesso che sia tutto sempre così normale. Ma tu l'hai sempre abbastanza praticato, insomma, non è una cosa così lontana dalle tue corde, come dire, no? Cioè... No, beh, adesso questo non mi risulta, però voglio dire non. Ma allora qui mi hanno mandato. Ma sapete, signora Susi, ad esempio, lei di questa vicenda drammatica dei Marò? Ma no, ma lascia perdere i Marò. Susi, bocca golosa, scusami, però bocca golosa, come si chiama lei? Mi ha mandato una foto, un ascoltatore, però non so se il numero corrisponde a quello giusto. C'è scritto Susi, bocca golosa, e poi c'è un numero di telefono con una casupola dove l'hai scritto, forse, però forse... Susi, allora ti spiego. Aspetta un attimo, il numero è qui, 333? 333-8917... No, sennò ci accusano di fare ci accusano di com'è il reato, quello di fede. È scritto in tutti i bagni degli autogrill, negli autogrill, vicino ai muri, vicino alle porte. Ho capito, amica mia, però qui ci danno, qui c'è coso, la Boccasini che ci accusa di, come si chiama? No, sì, appunto, di favoreggiamento della prostituzione, se diamo i numeri di telefono. È una cosa pazzesca. Mica lo sta dicendo lei. Ma bisogna stare, appunto, lo stiamo dicendo alla radio, qui ci accusano di favoreggiamento della prostituzione. Allora, se uno gira in autostrada, sì, c'è scritto in tutti i caselli dove si paga, fra Vasto Nord e Vasto Sud, il mio numero. A me che mi denunciano, mi fa piacere. Ma no, denunciano noi. La mia pubblicità. Ma denunciano noi, per favore, già, ma sto scherzando, ovviamente. No, io non trovo, perché il giornale è sì, un business. È possibile che sul centro di Pescara paga 103 sì, euro al giorno per fare cosa? Come metti l'annuncio, 103 euro al giorno, 2 euro di tasse alle poste e 105 euro per un giorno. Ma non ho capito, ma perché tu che cosa hai messo? Che annuncio hai messo? Trans, ricevi un appartamento, servizio completo, se vuoi chiamami al mio numero. Si mettono gli annunci, questo annunci escort che ti pagano, i giornali fanno un business incredibile. È possibile pagare 100 euro al giorno? Eh vabbè, al amica mia, è possibile, evidentemente, se portano clienti è giusto così. Ma non ne portano perché è finita. Comunque è che finita. Guarda che cosa, mi ha appena scritto. Sì, mi ha appena scritto Vergassola dicendomi scusami ma sto mangiando, possiamo evitare i particolari, perché evidentemente signor Vergassola è sensibile al termine bocca golosa della signora. Il nome d'arte immagino sia bocca golosa, no? Sì, certo, nome d'arte, però immagino. Susi dalla provincia di Chieti in realtà è Susi della A14, diciamo la verità. È un po' come Ulisse, no? Specifichiamo, A14 parcheggio San Lorenzo. Non ho capito, scusa Susi. Sono l'amante dei camionisti della 14 e li auguro a tutti buon viaggio e mi vogliono tanto bene. Beh, vogliono bene, diciamo, vogliono bene, però vogliono anche altre cose oltre a volere bene, diciamo, no? Scaricano, lo so, però non fare così, che il signor Vergassola poi se sta mangiando e va di traverso la pasta asciutta serale al signor Vergassola. Grazie Susi, a presto, un abbraccio. Ciao, saluti dalla 14, viva la 14, viva i camionisti, viva i camionisti, ecco, ho mandato uno. Stai calma. Non mi molesti moschito, non mi moleste mostri. Ma ne era entrato uno da poco, scusa, siamo a Susi. Però io, scusa, il prossimo step, caro Vergassola, che sei in ascolto, caro Vergassola, il prossimo step è quello di raccontare in diretta nella grande casa trasparente della Zanzara, raccontare in diretta una prestazione sessuale della signora Susi. Questo è il prossimo step. Pensa a quanto sono contenti nel board di Confinoltre, giustamente. Quale board? Il board, si chiamano board. Di cosa? Board, di che? La dirigenza di Confindustria, che? Nel sentire il racconto in diretta della signora Susi, altrimenti detta bocca di come si chiama? Golosa. Bocca golosa, sì. Allora, però a proposito, diciamo, una cosa culturale per alzare il livello. Aspetta, a proposito di puttane di troie, ricordo, e dopo ecco, c'è la borsa, che Grillo nel 2009, te lo ricordi, in commissione al Senato, aveva detto che c'erano delle zoccole in Parlamento, suscitò un casino pazzesco. Dunque qui stiamo facendo l'elenco di tutti quelli che si sono comportati come Battiato. Io mi incazzai all'epoca con Grillo. Questa commissione, questo Parlamento non hanno nulla a che fare con la democrazia. 6 persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccola, e li hanno eletti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Ma tu ti rendi conto, Parenzo, che oggi Bersani ha incontrato anche Bagnasco? Questa è una cosa che ti fa andare il sangue al cervello, io sono sicuro. Hai incontrato anche Bagnasco dopo. Infatti è una cosa che volevo sottolineare, poi tu come detto dopo abbiamo tempo, poi alle 9 non si può dire più nulla. Dimmi, ora facendo una riflessione pacata, non anticlericale, ma riflessiva, usando termini appropriati al ruolo del signor Bagnasco e al ruolo del signor Bersani, ma che c'entra con lo Stato italiano e il futuro governo, il capo della CEI? Ai ai, ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato, come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. Dopo vi dico l'autore di questa meravigliosa frase. Travaglio insulta Grasso, che insulta Caselli, che insulta Grasso, che è il presidente del Senato, un ramo del Parlamento dove ci sono le troie. Poi all'altro, prendila, schiacciala, ti ho beccato. Siamo qui, Carlo da Verona. Buonasera, Carlo. Sì, buonasera Cruciani, ciao Parenzo. Vado velocissimo, che il ritmo deve essere veloce. L'intervento tutto dedicato alla ritmo deve essere Salvini. Veloce, dipende da lei se è veloce o no. Non è che un obbligo. No, so che lei dice sempre di saltare i convenevoli. Però sentiamo prima questo leghista. Scusi un attimo, Carlo, questo leghista, questo grillino, un tale Fraccaro, Fraccazzo da Velletri, come si chiama, che dice: spero di poter retribuire il compagno di mia sorella. Sapete che si devono cercare i collaboratori. Ora tutto è possibile, cioè si può prevedere tutto, no? Tranne che un signore grillino dica: io voglio prendere come collaboratore il compagno di mia sorella. Almeno non lo dite, stai zitto, fallo scoprire tra qualche mese, no? L'unica persona che mi sta dando una mano in realtà è Giovanni Zoppi, che è un avvocato del lavoro, esperto in diritto costituzionale e in diritto pubblico. Mi sta dando una mano gratuitamente ed è una persona di cui mi fido ciecamente, anche perché è il compagno di mia sorella. E a lui ho dato accesso alla mia firma digitale, accesso ai miei soldi, accesso alle mie, ai miei dati personali, e spero di poter continuare, anche retribuendolo adeguatamente, di lui in futuro, perché stiamo lavorando bene. Well now, little mosquito, there must be. Oh, sembra che domani Bersani incontri anche il mago Zurlì. Moi, per Orfei. Per questo qui non ti indigni, però. Per che cosa dici? Per questo grillino? Non fai la stessa canea. Ma che devo fare? Che hai fatto nei confronti di Battiato? No, ma io non ho fatto nessuna canea nei confronti di Battiato. Anzi, ho lasciato aperta la possibilità. Allora, o ha perso completamente la brocca, oppure dice quello che molti pensano e che non hanno il coraggio di dire, cioè che Berlusconi ha portato in Parlamento delle mignotte, però lo deve dire chiaro, non dice il Parlamento, deve dire chiaramente Berlusconi ha portato delle mignotte che sono andate a letto con lui, oppure qui ha toccato il culo o cose di questo tipo, lo deve dire chiaramente. Comunque, non può rimanere nel vago. Dimmi che notizia hai, avanti. Se vuoi c'ho un ospite qui a mio fianco. Ma chi è l'ospite a tuo fianco? Non è vero. Che vuole fare una riflessione in diretta a Radio 24 della Zanzara. Sì. Ma se vuoi cominciare sulla sua situazione politica, il signor, come si chiama? No, non vuole parlare. Come non vuole parlare? Il proprietario, come dice, il proprietario del, no, non sì. È proprietario, così dice? Un amico del signore che sta mangiando dentro lì. Sì, okay, ho garage, capito, ma che vuol Roma, dire? Padova, di vabbè, Carlo, che mi dice, Carlo? Eccomi, allora, frate, volevo dire che fa bene a non indignarsi per i grillini, perché se scorreggia il presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa è giusto indignarsi, se ti scorreggia il cane sotto la tavola te ne freghi, questi non contano niente, quindi non ci puoi stare a perdere del tempo. Detto questo, allora, sull'amico Salvini di prima, che commenta Battiato dicendo che è un assessore part-time, Salvini è in TV tutti i giorni, un giorno ogni altro, quindi sul part-time, lui oltre a fare, avere una carica politica in Lega, fare l'europarlamentare, sarà sempre in TV. Lui dice che è bravissimo, fa un sacco di attività. Immagino se lo facesse full time potrebbe salvare l'Italia, invece se ne sta sempre in TV. Quindi... Vabbè, ma ognuno okay. Dice che è bravo, fa delle cose grandiose, non è una novità, su, dai. Sta... Beh, appresso alle... Lei sta appresso a quello che dicono i politici quando si autoesaltano dicendo che fanno delle cose meravigliose, delle grandi attività. Io, non ci faccio nemmeno caso, non va salto tutto, direttamente. Va tutto benissimo, va tutto bene anche quando dice che lui consulta la base su Facebook, peccato che poi censuri tutto, e io posso garantirlo perché sono stato regolarmente censurato su domande fatte. Vabbè. Parlo da ex leghista. Ma come gli va lei di andare, sì. Come gli va a lei andare a parlare con i politici su Facebook? Dio solo lo sa. Comunque, vabbè. Allora? No, magari, sì, allora facessero a meno di dire che loro consultano la base su Facebook, come ha detto il buon Salvini. Lasci stare, dica che fa propaganda su Facebook, è diverso da dire che consulta la base. Detto questo, poi io ricordo Salvini, quando in campagna elettorale per la Lombardia si lamentava del fatto che sulla pagina Facebook di Ambrosoli c'erano dei deficienti, perché sono i deficienti, che commentavano insultando Maroni. Allora, premesso che era deficiente insultare Maroni sulla pagina Facebook di Ambrosoli, la lamentela di Salvini era che nessuno andava a togliere quei commenti. Ora, oggi Salvini ha pubblicato un commento imbarazzante, scandaloso sulla Boldrini, sul presidente della Camera, dicendo che è degna di un paese nordafricano perché lei si occupa solo non si occupa della nostra gente. Al commento sono seguiti insulti di ogni genere sulla pagina ufficiale di Salvini. Vabbè, allora? No, ecco, immagino che Salvini in questo caso, per la sua gente, come la definisce lui, vada tutto bene, quindi tutto si può fare quando non gli toccano Maroni. Andando avanti ancora, sempre col buon Salvini, che anche oggi... Carlo, non c'è più tempo, grazie. La zanzara stronza che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Rita da Milano, buonasera. Rita è morta. Danilo dalla provincia di Piacenza. Salve signor Cruciani. Senta, io voglio solo fare una critica un po' così, cioè, ho visto che prima ha parlato con una certa Susi, non so sì, se ho capito sì, bene, giusto? Sì, sì. Allora, io non trovo veramente giusto che lei possa permettere di comunque che questa persona possa sputtanare, dico sputtanare, chiedo scusa, la nostra categoria, perché io sono un autista qui del camion, non trovo giusto che questa persona debba andare a dire determinate perché cose. Sputtanato? Non ho capito. No, perché sputtanato, le dico anche subito il motivo, perché allora che questa persona chiami e dica io lavoro in un parcheggio, ben venga, tutto ok. Allora i parcheggi si chiamano parcheggi e non, come si dice, oratori di sesso per quello che riguarda... Vabbè, ma sia un no, po'... No, mi faccio solo finire il discorso, perché veramente, allora, io sono un autista, sono una persona che non ha quei vizi lì, ok? E io credo veramente... Ma che vizi? Ma sia un po' più laico! No, sono vizi. No, allora, lei, dottor signor Cruciani, lei dovrebbe mettersi in autostrada, ok? In autostrada, di notte... Allora, che lei viaggia e debba avere sonno non si può fermare, perché queste persone, appena tu ti metti giù e ti fermi col camion, arrivano mostrando tutte le loro parti intime, pensando che io sono lì per loro, io non mi posso ricordare. Vabbè, lei non ci va, ma lascia agli altri la libertà di andarci, lascia agli altri la libertà di andarci. E non va bene che questa persona vada a dire ai camionisti quanto. Ma lascia agli altri la libertà di andare a prostitute, lascia agli altri questa libertà. Che cosa gliene frega a lei? Lei non ci vuole andare, non ci vada. Ho capito, ma non può che... Allora, noi camionisti siamo già nell'occhio del ciclone. Per ogni cosa siamo per strada, allora cominciano. I camionisti sono delinquenti, provocano incidenti, sono puttanieri. E gente, ma non è vero, ma nessuno, no, è così, ma nessuno pensa questa cosa. Allora, lei il prossimo suo ascoltatore con la quale lei parlerà, le faccia la domanda. Cosa ne pensa dei camionisti? Vede cosa le dice. Perché così... Ma non è vero, ma nessuno pensa che siano dei intervenire determinate persone, lei veramente degrada ancora di più di quello che adesso siamo, nostra categoria. Se la pigliano i camionisti con noi, avanti, se la pigliano i camionisti. Lei è l'unico, penso, l'unico che pensa di essere stato, come dire, no, vilipeso dalle affermazioni di una signora che fa un mestiere che secondo me dovrebbe essere legalizzato, che è quello della prostituta, che chiama dicendo che va con i camionisti. Qual è il problema? Se lei viaggia con la sua famiglia di notte, e glielo posso garantire, la sua bambina, il suo bambino ha bisogno di fare un bisognino e si ferma in un parcheggio, e la resta persone di queste, io voglio vedere se le fa. Ma le che me ne fa, mica ho paura di quelle che fanno le prostitute, qual è? Mica mi assalgono perché sto... Perché poi deve dare delle spiegazioni ai suoi figli, cosa le dice? Eh? E cosa le dice? Ma io non so di che io cosa di notte parla. Io voglio stare tranquillo, voglio dormire tranquillo, se voglio andare a puttane, travestiti, a quello che è, va da un'altra parte, ma noi in autostrada, la polizia questo lo permette. Vabbè, resti lì, resti lì fermo. E con noi Vittorio Sgarbi, ciao Vittorio. Eccolo. Allora, dimmi un attimo, hai saputo dell'ultimo... Ma lo hai chiamato perché è esperto di transessuale. No, ma che esperto, ma quando mai? Ma non sarà mai andato no, a prostituire? No, trovo Crociani pieno di buone intenzioni rispetto alla libertà, perché il camionista, con la questione che ho sentito adesso per radio, sì, parla di una questione che si può anche affrontare da un punto di vista moralistico, però che necessità c'è che uno si fermi a fare la vita proprio dove c'è la prostituta? Perché lui fa una cosa, tu vai avanti di un chilometro, il bambino potrà farlo. Ma anche avanti di 30 metri, di 50 metri, insomma, non necessariamente di un chilometro, ma insomma, non è questo il problema. Senti Vittorio, ma prima di parlare della questione del giorno, che è quella di Battiato che dà delle troie, sì, in Parlamento. Troie che farebbero di tutto, e prima sembrava riferito a tutti, in realtà poi era chiaramente riferito alle donne, e secondo me alle donne di Berlusconi, almeno così ha detto in un'altra intervista al TG3, e io ti volevo chiedere, secondo te in questa assurda vicenda cui hai assistito la settimana scorsa tra Grasso e Travaglio, alla fine come ne esce il Presidente del Senato? Ma insomma, purtroppo non doveva fare quella telefonata, perché l'unico modo perché una notizia non si diffonda e non nasca una discussione è non sottolinearla, quindi lui ha fatto due errori, ha legittimato la sede più che la terza camera di Vespa, una camera in cui il Presidente del Senato interviene, e ha legittimato Travaglio, perché negando una cosa è un po' come la dichiarazione del Ministro degli Esteri sul fatto che non avrebbero corso il rischio della pena di morte, ci ha fatto sapere che non sapevamo che la pena di morte è prevista per reati come l'assassinio, che i due assassini, quali sono i Marò, anche se preterintenzionali, questo rischio lo correvano. Allora, man mano che tu su una cosa intervieni dicendo un'altra cosa o smentendo, e lui nel momento in cui è intervenuto ha fatto come il governo. Ma poi se lui non fosse intervenuto, le cose di Travaglio sarebbero rimaste lì appese, perché l'ha sempre dette, cose del passato, la gente non sa, delle cose... No, poi lui fa, la caratteristica di Travaglio è di fare uno spettacolo teatrale esatto, in cui realtà e finzione si confondono, quindi è difficile capire se quello che dice è vero o è la finzione teatrale, per cui sarebbe passato inosservato, o perlomeno sarebbe stata un'ulteriore travagliata. Invece l'ha sottolineata, poi l'ha sottolineata ancora di più andando a farsi interrogare, perché l'altra cosa bizzarra è che se tu fai un intervento a duello, cioè davanti a Travaglio, finisci tu giudice imputato, perché devi rispondere alle sue domande. E l'unica cosa in cui io ho trovato veramente presuntuoso e arrogante l'atteggiamento di Grasso non è nell'umana volontà di far capire che lui non è cattivo e non ha fatto niente di male, ma è nel pensare ad avere un giudizio subito. Chiunque di noi, per qualunque processo patisca, aspetta deve aspettare 10 anni. Lui invece ha 10 minuti. Allora finalmente accoglie l'invito di Formigli e va a farsi interrogare da Formigli, meglio che da Travaglio come inquisitore. Però lì ne esce bene, perché dice delle cose tutto sommato incomprensibili, secondo me è incomprensibile, è una cosa complicata. Incomprensibile, ma delle cose in cui si capisce che lui è in buona fede. Che cosa fa però? E perché questa volta ha corso un rischio minore che nell'intervento telefonico? Perché Travaglio sembra essere scappato. Travaglio non può fare la super figlia che dice: ma io da Formigli non vado, vado da Montana, vado da Lerner, non vado. Vabbè, perché lì c'è la cosa del tradimento di Formigli, del presunto tradimento di Formigli. Questo però è un fatto che riguarda lui. Ma c'è una malattia lì, no? Uno deve rimanere, deve appartenere per sempre a quella famiglia di Santoro, altrimenti se ne esci. In quello, tutto sommato, Grasso ha avuto un vantaggio, che sembra che l'altro si sia sottratto. Vabbè, Sgarbi Democristiano, dà ragione un po' a Travaglio, un po' a Grasso, su. No, non do ragione a Grasso. Ma tu dovresti essere a Io pelle... do ragione a Grasso in assoluto. Ah, ecco. Ma dico, la ragione di Grasso sarebbe stata evidente nel tacere. L'errore è essere intervenuto. Però poi ha avuto il culo, che l'altro non è andato. Sì, altrimenti l'avrebbe fatto nero. Altrimenti avrebbe rischiato e sarebbe sottoposto all'interrogatorio. Quindi, diciamo, la cosa migliore era non andare. Preso atto che le cose che dice Travaglio sono faziose e tendenziose, tu gliele fai dire come dici tu. Nel momento in cui chiedi il duello e quello non viene, per buona parte delle persone può essere che Travaglio, di cui non possiamo sapere l'antipatia per Formigli, si è tirato indietro, sì. Si sia sottratto, e questo tutto sommato gli è tornato di vantaggio dopo l'errore iniziale. Certo, questo allora abbiamo il traffico, poi torniamo perché voglio Sgarbi un po' scatenato sulla vicenda Battiato, a meno che non dica incredibilmente Vittorio, poi non ha tutti i torti, ha detto una cosa che pensano tutti. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco come una muchachita. Siamo qui 800 24 00 24. Fa discutere comunque Parenzo questa incredibile. Io mi devo salutare adesso. No, ma che dove vai? Ma dove vai? Sto andando a cena con mia figlia. Ma chi se ne frega? Alla cena di Pasqua. Vittorio, di qualcosa Parenzo che se ne vuole andare. No, Vittorio è rispettoso del fatto stai tranquillo. Vittorio, Battiato è pazzo? Lorenzo, però si dovrà ricordare che io prima di Travaglio avevo detto: e adesso finalmente il presidente del Senato potrà incontrare Mancino, a cui si è sottratto perché il presidente del Senato Grasso. Sì, mi ricordo che ti sei fissato con questa roba. Che ha l'ufficio al Senato. L'ufficio. Ti sei fissato con sta roba. Perché? Non ho capito. Perché dovrebbe incontrare Mancino? Che gli frega Grasso? Ma è un fuonologo, no? Cioè, il presidente emerito del Senato, sì, che è Mancino, ha l'ufficio al Senato. Sì. Ed è quello che. Voglio dire, che cos'è che manca a Grasso, a parte l'onestà che lui ha reclamato e che possiamo credere che abbia? Sì. Gli manca l'esperienza. E con chi potrà parlare se non con un collega del PD? Beh, e ma non del PDL. Non credo che andrà a parlare. Sì, certo, ma non credo che andrà a parlare. Scusa, ma Battiato è impazzito? Battiato è impazzito? No, di Battiato io posso dire che io avevo fatto una mia nota, siccome io sono molto amico di Battiato, l'avevo candidato presidente della regione. Me lo ricordo, come no? Ecco, certo. E poi lui ha fatto, io l'ho chiamato per dire: guarda che sei completamente folle, perché il ministro della storia al turismo non conta niente, l'assessorato buono, quello del patrimonio e quello della cultura, lui non mi ha ascoltato e ha scelto questo assessorato minore. Vabbè, ma va a fare i concerti in giro e non... forse aveva da fare i concerti, ma certo. A questo punto un giorno ha dichiarato, nonostante i tanti anni di frequentazione, che non ha mai conosciuto uno di destra intelligente. Allora ho pensato: o non mi considera di destra o è smemorato, perché di destra nell'ordine sono stati De Chirico, Burri, De Dominicis. Di destra è il più intelligente intellettuale di Milano, che si chiama Roberto Calasso. Di destra era Emile Zolla, evidentemente non ha conosciuto gli intelligenti, perché a sinistra sono molti conformisti, ma pochi intelligentissimi. Ho capito, ma questa frase sulle mignotte, sulle trolle... No, allora dico, già quella frase provava che la sua idea della destra è un'idea assolutamente così legata al contingente. Ma quale? Quella dei subumani? Quella dei subumani, dici? Lucio Battisti era di destra. Sì. Paolo Conte è stato spesso vicino a posizioni di destra, quindi non sa quello che dice. Quanto ha perfettamente ragione, nel senso che Berlusconi ha fatto un errore grave, era per la separazione delle carriere, ma si è dimenticato la prima, la separazione delle carriere di Troia e di ministra o di consigliera regionale. Cioè lui in sostanza ha confuso nell'attività politica quello che non potrebbe confondere. La separazione delle carriere, questa è bella. In effetti molte donne sono andate in Parlamento, avvicina la bocca alla cornetta del telefono. Sì, molte donne sono andate in Parlamento, come opina Battiato, perché legate a rapporti di amicizia, che poi possono anche non essere... Sessuali anche. L'amicizia è molto ampia, quindi vabbè, probabilmente lui si riferisce a quello. Sì, ma diciamo... vale per la sinistra e per la destra, non è che a sinistra. Beh, più per la destra. Più per la destra, più per la destra. Più per la destra. Ma stai parlando di Berlusconi, dunque ha ragione. Cioè, Berlusconi ha portato delle mignotte in Parlamento. Non so se ha portato delle mignotte, certamente se non ha praticato la separazione delle carriere, c'è una che fa un'attività di esibizione evidente della sua bellezza, delle sue tette e di tutto il resto, te la puoi portare a casa tua, nella tua camera, ma non nella camera di tutti. Dunque ha ragione da questo punto di vista. Ha detto una cosa ovvia, assolutamente ovvia, che poi sia stata calmierata. D'altra parte c'è un dato storico, potete chiedere alla Russa, che è certamente da questo punto di vista non sospettabile. Sì. Quando la Veronica fece la famosa lettera, la seconda lettera. Sì, avvicina la bocca. La seconda lettera, ecco, contro suo marito. Sì. Si era nel momento della presentazione delle liste elettorali per le europee. Certo. Dove c'erano, non perché le avesse chieste lui, su questo lui è tendenzialmente innocente, ma i suoi vari, dai Verdini agli altri che stanno nei collegi, avevano messo quelle che ritenevano fossero di suo gradimento. Alla fine, racconta la Russa, ne hanno tolte 15. Addirittura. Il padre di una di queste si è andato a bruciare, me lo ricordo, davanti a Palazzo Grazioli. Quello... Ora, questo mi pare un dato per cui Teatro, per quanto abbia detto una cosa poco elegante, corrisponde a una realtà effettuale che già dai tempi di Veronica, con la Russa che va a togliere i nomi di queste figure che sono magari rispettabilissime, bravissime, e però, ed essere troie o meno troie non è, avevano un'unica qualità, avevano un'unica qualità, diciamola tutta, avevano un'unica, no, non sappiamo, potevano anche averne altre, ma certamente, vabbè, si presentavano perché avevano le belle tette, soprattutto prosperose, erano belle. Verdini non candida Vernola, figlio di Vernola, sì. C'è un dialogo famoso sui giornali, e questo gli chiede di essere candidato, che risponde: ma le poppe tu ce l'hai? Lorino Verdini, e poppe tu ce l'hai? Sì, quando come io no? L'ho rimproverato a Verdini, Verdini mi ha detto: ma volevo dire che ci voleva una donna e un uomo per la legge che impone, facile interpretazione, ma l'altra più malevola è quella per l'appunto di cui la Russa può essere testimone per noi. Quindi non ha tutti i torti, ha detto una cosa ovvia. Che è poco rispettoso della donna, però, perché che è una puttana per andare in Parlamento è lecito, sì. Però non può essere pretere intenzionale. Cioè, se si va in quanto puttana, va perché prende i voti delle puttane. Se si va in quanto messa per la sua funzione, ci va come oggetto. Bene. Quindi, diciamo, cose che possiamo valutare in termini molto liberi, noi che siamo, come tu sei, libertari, e non abbiamo niente contro le puttane. No, però non che questo diventi una condizione per cui tu entri in Parlamento perché sei la protetta di qualcuno. Questo vale anche per gli uomini. Le due concubine, le più gravi, si chiamano Figlie Casini. Le famose concubine. Con Berlusconi, sì. E hanno avuto tutto da lui, sì, per portargli le spalle, poi si è visto, erano a leccargli il culo dalla mattina alla sera, le vere concubine. Ciao, grazie Vittorio. Ciao, a presto, ragazzi. ciao. E intanto Davide se n'è già andato. La battuta di prima, tra vai di insulta Grasso che insulta Caselli, che insulta Grasso, che è il presidente del Senato, un ramo del Parlamento dove ci sono le troie, è di Luca Bizzarri. State calmi, dice, l'avete rubata. L'ho detto, l'avrei citato alla fine. C'è un'altra bellissima di Luca. Io farei una battuta su Mag di Alla, ma è più bravo lui. A domani 18:30. Ciao. Buongiorno, sono Vito. Volevo smentire questa cosa che io stavo dormendo. Ero in collegamento telepatico con Casaleggio, ma purtroppo ero occupato e questa cosa si può fare solo tenendo gli occhi chiusi. E non mi rompete la minchia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono stati quei birbanti di Cruciani e Parenzo. Radio 24. La passione si sente.